si può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Ai Caraibi, guardate, non ne parliamo proprio, che neanche torna turista per caso, lasciamolo lì, no, dico lasciamolo lì, non lo facciamo più tornare. Innamorata sì, ma di Miguel. Fategli una telefonata, fategli prendere un aereo, fatelo tornare subito in questa città. Eccoci qua, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare dalle 18 fino alle 20.30 insieme con voi, con i vostri interventi all'800 24 00 24. Ben ritrovati da Alessio Maurizi, avete sentito Alessandra Mussolini e Paolo Cento, fategli una telefonata, fategli prendere un aereo, si riferivano al sindaco di Roma Ignazio Marino. Oggi per sua fortuna o forse anche per fortuna di Roma, il Consiglio dei Ministri non ha decretato lo scioglimento per mafia, il commissariamento, visto le inchieste di Mafia Capitale, però insomma un mezzo commissariamento. Il prefetto Gabrielli dovrà coordinarsi col sindaco su una serie di materie piuttosto importanti. Sentiamo Alfano. Intendo incaricare il prefetto di Roma proprio nel quadro dei rapporti di leale collaborazione tra le istituzioni locali, tra gli enti locali e lo Stato, di assicurare il prefetto di Roma proposte e indicazioni per pianificare insieme al sindaco di Roma Capitale gli interventi di risanamento dei settori che sono risultati più compromessi dagli accertamenti ispettivi. Ma la domanda è: può un sindaco, il sindaco della capitale d'Italia, il sindaco di Roma, Ignazio Marino, stare in ferie mentre succede tutto questo, mentre infuria la polemica sul funerale di Casa Monica, mentre il prefetto fa delle conferenze stampa su quello stesso funerale, mentre il ministro Alfano annuncia un mezzo commissariamento della città? Può stare tranquillamente in ferie perché, come dice il suo assessore Esposito, era cotto, aveva bisogno di vacanze, tutti hanno bisogno di vacanze. Non è colpa di Marino se c'è stato il funerale di Casa Monica, però sono quelle situazioni nelle quali un sindaco forse deve rientrare dalle vacanze, accorciarle e ritrovare al suo posto. 800 24 00 24. A proposito di vacanze, di ferie, l'assessore alla legalità Sabella: attenzione, anche i politici hanno una famiglia, anche i politici hanno delle loro esigenze, anche i politici hanno anche qualche problema. Per esempio, a me le ferie me l'ha prescritte il medico, tra parentesi. Io sono scappato all'ospedale e avevo 10 giorni in cui dovevo restare, avevo subito un mese fa un'operazione al cuore, dovevo rientrare un quarto d'ora dopo, ero di nuovo in Campidoglio nonostante il parere dei medici. E poi dice anche Sabella: io ci sono qui per questo, per mantenere la legalità a Roma. Sallusti. Presa disperata la mia. Beh, presa sì, disperata, per tutti i versi condivido. Oddio, io preferirei disperata. Che lo... Detto dall'assessore alla legalità e alla trasparenza del comune di Roma, diciamo, riportare la legalità in città a un'impresa disperata, beh, insomma, non è male, non è male. La proposta del rappresentante, credo fosse il vice segretario addirittura dell'ONU, in tema di immigrati, la proposta abbastanza, così diciamo, interessante, sentiamo cosa ne pensano gli ascoltatori, è questa: una tassa di un euro, una tassa di un euro su ogni volo in Europa per finanziare politiche di contenimento dell'immigrazione. Sentiamo direttamente dalla voce del signor Dust Blasi. Chiedo di firmare questa dichiarazione a tutti i paesi. Servirà a creare le condizioni di finanziamento per i paesi più poveri. La soluzione è possibile con un euro in più per ogni biglietto aereo, ad esempio, una tassa che può aiutare le popolazioni in guerra. Pagherebbe un euro in più per ogni biglietto aereo? Un euro, neanche un euro. Ma noi lo potremmo Ma noi lo potremmo pagare a chi va quest'euro, non va certamente agli immigrati, perché ci sono tantissimi soldi che vanno agli immigrati e questo è il business, cioè non vanno agli immigrati persona, vanno alle strutture che gestiscono gli immigrati. Per una volta sono d'accordo con Alessandra Mussolini, perché sicuramente va bene la solidarietà, sicuramente va bene per i paesi in guerra dare degli aiuti, aiutiamoli a casa loro, la cooperazione, lo diciamo, lo sentiamo dire dai politici sempre, mille volte, bisognerebbe farlo di più, però un euro per un biglietto aereo dato ai paesi in guerra, agli immigrati che vengono dai paesi in guerra, sembra veramente una barzelletta, sembra un po' una barzelletta sinceramente. Numeri in libertà, quelli per esempio sui profughi e sugli immigrati, Ronzulli di Forza Italia. Arrivano milioni di minori che a distanza migliaia. Come la luna. Qualcuno si stracciava le vesti quando arrivava la tenda di Gheddafi a Roma. Scusate se dico faccio una battuta, preferisco veramente 100 tende di Gheddafi a Roma piuttosto che quello che sta capitando ad oggi. Insomma, siamo arrivati anche a questo, ai paragoni tra le tende di Gheddafi a Roma, che qualcuno aveva criticato, il leader, il dittatore sanguinario e violento a Roma a cui Berlusconi aveva aperto le porte, con il paragone tra quelle tende e le tendopoli degli immigranti e dei profughi che ci sono adesso. Sono due cose chiaramente che non c'entrano nulla una con l'altra, non è che si può fare a scambio. Cara Ronzulli, si potesse fare a scambio tra una cosa e l'altra avrebbe un senso, altrimenti detta così non ha proprio senso, non ha proprio alcun senso. Salvini dai microfoni di Radio Padania chiarisce, specifica i contorni della tre giorni di settembre con cui ha annunciato di voler bloccare il paese, che ricordiamolo è già abbastanza bloccato anche di suo. Tu stai dicendo di respiro e tutto, perché una delle cose che vorrei fare è bandire l'acquisto di sigarette. Assolutamente, sciopero del fumo. Mi sarò costretto a fumare di nascosto come del gratta e vinci, come un bambino. Vedremo di mettere a stecchetto le banche, ci metteremo anche d'accordo con i benzinai che non guadagnano un accidente nonostante la benzina abbia i prezzi alle stelle, col petrolio ai minimi storici. Quindi stiamo preparando un settembre, un ottobre di battaglia, perché penso che Renzi sarà l'ultimo panettone che si mangerà. Aspettiamo che Berlusconi rientri dalla Sardegna per capire se e come c'è possibilità di dialogare con tutti quelli che sono all'opposizione. Vediamo se dalle parti di Grillo, al di là delle chiacchiere, qualcuno ha voglia di costruire un'opposizione seria, concreta, efficace, insieme, o se rimangono parole al vento. Dracula, Dracula, Dra-cha-cha-cha, sortant doucement de ta tombe, tu vas par les nuits les plus sombres, drapé dans ton grand manteau noir. Dracula, Dracula, Dra-cha-cha-cha. È l'assessore alla legalità del Comune di Roma, è stato al centro di una polemica anche per la sua assenza nei giorni del funerale di Casamonica, era in vacanza in Transilvania, il paese di Dracula. Buonasera ad Alfonso Sabella. Buonasera. Oggi però lei è al suo posto e può rispondere, possiamo commentare. Ma ero al mio posto anche al posto dove dovevo essere anche qualche giorno. Sì, beh, era in vacanza, giustamente, anche perché io dico le vacanze vanno fatte. Credo però che il sindaco sarebbe potuto rientrare nella giornata di oggi, perché era una giornata cruciale per Roma, si decideva sul commissariamento, eccetera, eccetera. Marino quando rientrerà invece? Ma credo che forse domenica o forse qualche giorno dopo, non sappiamo ancora per certo quando il sindaco sarà a Roma. Però vorrei dire una cosa, sì. Roma, il Comune di Roma non è mai stato senza il dovuto e l'adeguato presidio. C'è stato il vice sindaco presente per tutto il mese di agosto, sì. E il sindaco è stato qui fino a Ferragosto, quindi ci siamo divisi, no, vabbè, un pochino. Dal punto di vista delle funzionalità del Comune non ne dubito, però dal punto di vista dell'immagine, questa assenza di Marino forse può può no, avere ognuno, ognuno può fare ovviamente le proprie valutazioni, però dato è questo, non abbiamo avuto grandi sorprese dai provvedimenti che ha adottato il Consiglio dei Ministri, perché in qualche modo sapevamo già, almeno personalmente lo sapevo già da parecchi mesi, quale poteva essere l'unica soluzione possibile, ovvero l'adozione del quinto comma del TUEL, del 143 del TUEL. L'ho detto mesi fa, in epoca assolutamente non sospetta, che l'unica possibilità che c'era, che a norma di leggi, che poteva essere l'unica soluzione che poteva essere adottata per Roma, era appunto quella dell'applicazione dell'articolo 5. Adesso ne parliamo approfonditamente, la decisione di Alfano su Roma, il nuovo ruolo per il prefetto Gabrielli, mezzo commissariamento, dico io, dice lei, una cosa attesa, modello Expo, si è parlato, c'è il giubileo in arrivo, ritorniamo anche sul discorso del funerale di Casa Monica, tutto dopo il traffico, tra poco. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Allora, eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, di nuovo insieme all'assessore Sabella, l'assessore alla legalità del Comune di Roma. Stiamo parlando con lui dei provvedimenti adottati dal ministro Alfano su Roma. Allora, il prefetto avrà un ruolo di coordinamento insieme a Marino su 8 capitoli abbastanza importanti, che sono il verde pubblico, l'ambiente, la casa, l'immigrazione, i campi nomadi e forse anche altro. Siamo lontani? No, gli 8 vanno contati in maniera diversa. Sì. L'adozione di atti di diritto su questi settori è il primo punto. Poi ci sono tanti altri punti, sono altri 7 che sono altri sette ancora. E quali sono? Sono l'adozione e l'aggiornamento dei regolamenti di competenza dell'amministrazione comunale, la revoca in autotutela degli affidamenti disposti in assenza di regolari procedure concorsuali, la predisposizione e l'aggiornamento di un albo delle ditte fiduciarie, monitoraggio della centrale unica degli acquisti, l'avvio delle procedure di annullamento delle delibere dirigenziali, l'implementazione del controllo interno. Ma sta leggendo o le sa a memoria? In parte li so a memoria, anche perché sono le aree di intervento su cui noi abbiamo già operato da diversi mesi. Poi lei è un magistrato di esperienza, questo va detto, e quindi queste cose le conosce, però allora a maggior ragione tanti campi così su cui interverrà il prefetto di Roma Gabrielli, siamo lontani se diciamo un mezzo commissariamento? Lontanissimi, perché in realtà quello di cui si va parlando adesso è solo un commissariamento mediatico, perché se noi andiamo a vedere un po' per quanto riguarda, distinguiamo innanzitutto gli ambiti, Giubileo, quello che è uscito dal Consiglio dei Ministri oggi, è lo stesso identico schema del modello Expo. Non credo che il sindaco Pisapia o il presidente Maroni si siano sentiti commissariati dal rispettivo prefetto, al prefetto di Milano. Ma però per quanto riguarda il giubileo stiamo parlando? Allora, questo per quanto riguarda, quindi ci compriamo il campo dal giubileo. Sì. Il giubileo abbiamo avuto soltanto un pochino meno di soldi, nel senso che i soldi sono le risorse di Roma, ma per il resto siamo nello stesso identico sistema dell'Expo. L'unica deroga che abbiamo avuto è quella che riguarda i tempi di aggiudicazione delle commesse, senza nessun'altra deroga al Consiglio degli Appalti, e tutto si svolgerà con la dovuta trasparenza e anzi addirittura in condizioni, se posso dirlo, anche più con dei principi molto più chiari e molto più limpidi rispetto all'Expo, perché abbiamo adottato, Roma dal 20 di gennaio scorso si è dotato di un meccanismo di aggiudicazione degli appalti che è quanto di più limpido e trasparente possibile. Con un ruolo anche dell'autority anticorruzione di Cantone? Seguendo il modello della ricostruzione di Cantone, consideri anche un'altra cosa, che al di là del provvedimento del governo, che noi ovviamente apprezziamo e siamo felicissimi di poter godere del supporto di Cantone su tutte le gare del giubileo, noi già come Comune di Roma, e siamo stati il primo comune d'Italia, abbiamo firmato un protocollo d'intesa qualche mese, un paio di mesi fa, con l'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione per lavorare sulla verifica preventiva di 10 procedure di gara, e ne abbiamo lasciate appositamente 6 in bianco, proprio perché potessimo avvalerci del supporto dell'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione sulle gare di maggior rilievo del giubileo. Queste 6 gare andranno, queste 6 gare, procedure in bianco andranno riempite con le gare di maggior rilievo del giubileo. Però scusi, quindi, io torno su questo argomento. Di no, nuovo. Niente di nuovo, modello Expo, va bene, sul giubileo il modello Expo. Però abbiamo Roma, il prefetto invece, più il commissario all'anticorruzione Cantone. Lei è già assessore alla legalità. Di cosa le resta di occuparsi? Non è una diminuzione di fatto di quelle che sono le prerogative dell'amministrazione Marino? Beh, consideriamo diciamo che Milano non aveva avuto la criticità di Roma, almeno apparentemente, e non aveva un assessore alla legalità. È chiaro che questo, per quanto riguarda, non c'è nessun tipo di diminuzione delle prerogative, né mie né tanto meno del sindaco. Ci sono le stesse prerogative che aveva il sindaco di Milano e che aveva il presidente della regione della Lombardia. Quindi è tutto, scegliamo noi quali sono i lavori da fare, le gare le facciamo noi, tutto quello, gli interventi. Però d'accordo con il prefetto Gabrielli, scusi, no? No, il prefetto Gabrielli ha i compiti previsti dalla legge di coordinamento di tutte le amministrazioni interessate. Cioè, faccio un esempio. Ma quindi questo annuncio di Alfano allora, cosa consiste? Attimo, niente. No, distinguiamo i campi. Facciamo cose. Allora, in questo momento tutti dovete dire che c'è il commissariamento di Roma, e va benissimo, vi piace dire così e ditelo, non ve lo posso impedire, siamo in un paese libero, ma di fatto sull'Expo, sul Giubileo, diciamo che è lo stesso modello Expo, quindi dite anche che sono stati commissariati Pisapia e Maroni, e così. No, ma a parte il Giubileo, lasciamo da parte il Giubileo, tutto il resto. Andiamo a tutto il resto che cosa c'è? L'applicazione dell'articolo 5, quindi non c'è, a parte il commissariamento di Oste, se vuole parliamo, ma è un discorso a parte, perché lì abbiamo un tipo di mafia che è diversa da mafia capitale, e Ostia è stata commissariata non solo per mafia capitale, ma anche per il fatto che c'è delle mafie endogene e di tipo molto più tradizionali e presenti sul territorio, e questo è un altro aspetto. Per quanto riguarda invece Roma, su Roma che cosa abbiamo avuto? Quello che io ho detto fin dall'inizio di questa crisi, cioè l'unica norma applicabile è l'articolo 143, comma quinto del TUEL, quello che dice che il luogo dello scioglimento, perché per me e anche per il governo, ma anche per tutte le persone di buon senso, non c'erano e non ci sono le condizioni per sciogliere il comune di Roma per mafia, l'unica norma applicabile, dicevo, è il comma quinto del 143, che prevede che in luogo di procedere con lo scioglimento, il ministro dell'interno, su proposta del prefetto, può adottare i provvedimenti urgenti e necessari a rimuovere le criticità in atto quando le infiltrazioni non riguardano tanto il sindaco, ma riguardano, come nel caso di specie appunto, ma riguardano la macchina amministrativa. E allora è sulla macchina amministrativa che il ministro dell'interno ha ritenuto giustamente di agire, quindi proponendo la sostituzione, la rotazione, il procedimento disciplinare di diversi dirigenti. Da premettere, tranquillizziamo anche i cittadini romani su questo, che sono sicuro, io non conosco ufficialmente il nome dei dirigenti e dei funzionari saranno oggetto del provvedimento del ministro Alfano, ma ritengo che sono tutte persone che ormai non si trovano più al posto dove erano al momento della crisi, visto che abbiamo avviato il più grande piano di rotazione mai avvenuto in Italia e che abbiamo sostituito tutti i dirigenti per cui avevamo... Quindi verranno sostituiti i dirigenti che voi avevate già sostituito, quindi c'è il rischio addirittura che tornino ai loro posti, quelli di prima. Dove erano quando è stata la criticità, e noi non potevamo, non possiamo mandarli a casa, ma abbiamo questo potere e non avevamo ancora fino a questo momento gli atti necessari per promuovere un eventuale procedimento disciplinare. Atti che ci arriveranno dal ministro dell'interno che noi utilizzeremo al meglio. Voi avevate già avviato la rotazione dei dirigenti, mi ha detto, no? Noi abbiamo avviato la più grande rotazione. Quindi adesso che vengono di nuovo spostati, c'è il rischio che qualcuno torni al posto di prima? No, non c'è questo rischio che qualcuno torni al posto di prima, perché la rotazione è stata avviata quest'anno sulla base di un piano di anticorruzione e trasparenza che abbiamo proceduto a riscrivere. Da quando ci sono io l'abbiamo riscritto. Quindi, allora, da questo momento in poi questi dirigenti sono stati rimossi dai posti dove erano quando c'è stata la criticità. Sulla base delle norme in vigore non possiamo mandarli a casa. È chiaro che adesso, avendo gli atti che era della relazione del prefetto, quello che noi potremo vedere, probabilmente avremo la possibilità di utilizzare al massimo gli strumenti che ci dà la legge, quindi avere gli elementi per avviare dei procedimenti disciplinari che anzi avvierà direttamente, che saranno sollecitati direttamente. Vabbè. E su questo, parte qua abbiamo chiarito. Andiamo al lato che piace tanto alla stampa, che è quello del presunto commissariato. Sì. Andiamo sulla base della legge, l'articolo 143 del TUEL non prevede altre forme alternative, quella legge non è scritta per le grandi città, ricordiamoci che finora che Ostia è in questo momento... Guardi, però scusi, se lei mi cita gli articoli del codice io chiaramente... Io sto alle dichiarazioni del ministro Alfano e le chiedo, il ministro Alfano ha detto che il prefetto Gabrielli avrà un ruolo di coordinamento su una serie di settori affiancherà al sindaco Marino, è corretto quello che ha detto Alfano? Ha detto che il coordinamento del prefetto Gabrielli sarà sul Giubileo, che poi inviterà il prefetto Gabrielli a lavorare d'intesa in collaborazione, in cooperazione con il sindaco di Roma su alcuni settori le cui criticità sono emerse nell'ambito dell'inchiesta. Esatto, e che non hanno nulla a che fare col giubileo, però. Assoluto, totalmente, non c'entra il giubileo. E allora? E allora c'è questo affiancamento di Gabrielli, no? O no? Lo ha detto lei. Affiancamento di Gabrielli, c'è anche il prefetto d'Agrigento che ha lo stesso affiancamento sul sindaco di Aragona. Il prefetto di Ragusa che ha lo stesso esatto. Poi se lo vogliamo chiamare, mezzo commissariamento, come ho detto io, oppure no, come dice lei, riferimento a tutti gli articoli del codice, commissariamento prossima volta, sinceramente, o mi dà la possibilità di spiegare che non si tratta manco di un commissariamento. Sì, guardi, sono otto minuti che lei sta spiegando, sono otto minuti, assessore, che sta spiegando di che non si tratta di un commissariamento. L'abbiamo capito, forse l'abbiamo capito. Torniamo però a un altro argomento, che è quello... No, le cose che le voglio dire io, è questa. Tutte queste, il ministro Alfano che cosa ha fatto? Giustamente, correttamente, ha dato un atto di indirizzo. Però non continui a citare il codice, perché se non si capisce, non è il codice. Quindi? Non capisco che le leggi non vi piacciono in Italia. No, non è che non ci piacciono, assessore, è che non le conosciamo. Bisogna che lei si sforzi di parlare in modo che la gente possa capire, altrimenti non capisce niente. Credo che sia comprensibile da parte di un essere umano normale. Un atto di indirizzo in cui ha detto: caro prefetto, guarda che sulla base di quelli che sono i poteri che la legge normalmente ti attribuisce per tutte le amministrazioni, i poteri di controllo e di verifica dell'operato degli enti locali, ti segnalo questi 8 punti di intervento. E sono gli 8 punti su Roma da fare d'intesa col sindaco Marino. Da premettere e da accreditare che proprio su questi 8 punti noi abbiamo già agito da tempo, da tantissimo tempo, e siamo già molto questo mi rassicura e può rassicurare i romani. Quello che stavamo cercando di capire, che i romani all'ascolto forse vogliono sapere, è quale sarà il ruolo del prefetto Gabrielli che si affianca al sindaco Marino. Io ho usato l'espressione mezzo commissariamente, a lei non piace, l'ha spiegata in un altro modo, non importa. Prefetto, sì. Il ruolo di qualunque altro prefetto, di qualunque altro. Quindi quello che ha detto oggi Alfano è acqua fresca, cioè non è cambiato non è nulla rispetto a quello che Alfano ha dato un atto di indirizzo al prefetto, ha detto: siccome ci sono delle criticità, caro prefetto, dai una mano al sindaco su queste 8. Va bene, perfetto. Chiarito questo punto. Mi faccia andare avanti con l'intervista e voglio toccare un altro punto, perché la famosa frase sua del funerale Cafone, gliela voglio richiedere, perché lei ha detto: io non torno dalle vacanze per un funerale Cafone. Conferma questa frase, cioè per lei di quello si è trattato. La scrivo e la ripeterò mille volte insieme a tutto quello che ho detto, però prima e dopo quella frase. Cioè? Questo è il problema. Io prima di quella frase ho detto, molto prima, sono stato il primo a parlare di simboli mafiosi in quel funerale, di fatto gravissimo, di atto che doveva essere evitato, sì. E non è stato evitato a Roma, perché Roma purtroppo, a causa del negazionismo della presenza delle organizzazioni mafiose, non aveva maturato gli anticorpi necessari a evitare questo fenomeno. Ciò premesso, ho detto che non c'era motivo per cui uno dovesse precipitarsi a Roma, dare una soddisfazione ai Casamonica dicendo che io corro a Roma perché io ho organizzato un funerale Pacchiano, Chicci, eccetera, eccetera, perché quel funerale non è un reato, non è una strage, non è un omicidio, è soltanto l'epifenomeno della presenza di un fenomeno. Però se è un fatto gravissimo, come lo ha detto lei, allora io mi domando, dopo che è accaduto un fatto gravissimo, lo dice lei, lo dice il prefetto Gabrielli, perché ad oggi non c'è alcuna responsabilità per nessuno? Nessuno che... Allora, io non ho detto che non ci sono responsabilità per nessuno. No, ma l'ha detto Alfano oggi, lo ha detto praticamente Alfano. Allora, ha detto: condivido quello che ha detto Gabrielli, che aveva detto è un fatto grave, però non ci sono, non cadranno teste per colpa mia. Perché infatti, se fosse stato, vede, il maresciallo di Monreale, il maresciallo di San Giuseppe Iato a prendere quella notizia, e allora quel maresciallo andava a... Ma se la notizia la prende un carabiniere di Roma non abituato a confrontarsi col fenomeno mafioso, questo povero Cristo non ha i sensori attivati, le antenne accese per capire che questo episodio si può trasformare in un vulnus per la capitale, nel senso che è una dimostrazione di arroganza e di potenza di queste organizzazioni. Questo è il, cioè, il carabiniere che ha deciso non aveva un dirigente di riferimento che poteva valutare la situazione. Ma occorre farla transitare la notizia, purtroppo sì. A Roma muoiono tante perché persone. Perché Gabrielli, ecco, su questo fermiamoci un secondo, se hai ancora due minuti per stare con noi, devo dare la linea alle informazioni sulla borsa, però la questione è cruciale, perché Gabrielli ha detto le informazioni, lo sta ripetendo anche lei, non sono transitate dal basso verso l'alto, quindi qualche cosa che non ha funzionato ci deve essere. Allora io mi domando, perché non c'è qualcuno che ne paga le conseguenze? Borsa, torniamo tra un attimo. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua cari ascoltatori, di nuovo in diretta con l'assessore di Roma Sabella. E so, io l'ho già detto, se il prefetto, ma anche il ministro, il questore, anche lei, dicono tutti si è trattato di un grave errore, una cosa che, non, che si doveva, si poteva evitare, e poi però appunto non si individua la responsabilità di nessuno per questo errore, io penso che allora la solita cosa all'italiana, tanta indignazione e poi niente di fatto. Però lasciamo perdere quello che penso io. Lei che spiegazione si dà di questa comunicazione che dal basso non è arrivata ai vertici della prefettura? Quello che l'ho detto all'inizio, la mancanza di una sensibilità della presenza del fenomeno mafioso a Roma e conseguentemente la sottovalutazione da parte di chi ha ricevuto le notizie della notizia stessa, tale da non informare. Però scusi, superiori. Allora chi ha ricevuto le notizie che non ha informato i superiori a questo punto non andrebbe rimosso da quel posto se non ha gli anticorpi per la legalità? Ma se fino all'anno scorso, a due anni fa, il prefetto precedente negava l'esistenza della mafia a Roma, adesso ce l'andiamo a prendere col povero carabiniere che ha notificato un ordine di un provvedimento del tribunale. Quindi dobbiamo aspettare che questi anticorpi crescano. No, vede, questo è un fatto molto positivo. Questo funerale è stato un fatto di grande positività, secondo me, perché finalmente ha aperto gli occhi a tutti. Nessuno adesso a Roma se la sente più di negare che la mafia esiste. Questo tipo di funerali purtroppo si celebravano in Sicilia negli anni 60, negli anni 70. Poi abbiamo avuto gli anticorpi. Noi non abbiamo sconfitto la mafia quando nel 93 abbiamo impedito a Luciano Ligio di celebrare ai parenti di Luciano Ligio di celebrare un funerale in questo stesso stile. Ma abbiamo certamente dato una dimostrazione che ormai avevamo capito che questo sistema poteva essere una manifestazione di potenza e di arroganza che andava bloccata e andava impedita. E allora questo è il discorso. Adesso andartela a prendere col povero veramente l'ultima ruota del carro per far saltare una testa. Certo c'è un problema di sicurezza nazionale, che è il discorso dell'elicottero che ha mutato i piani di volo e che è lì anche per il pericolo per la sicurezza della città, che lì bisogna agire, e se ci sono stati degli errori qualcuno dovrà pagare. Si è anche detto che i vigili avrebbero scortato la carrozza con i cavalli eccetera eccetera, che era una bufala colossale che però ha tenuto banco per qualche giorno, perché in tutto questo bisognava gonfiare la bomba mediatica. Ora, è vero, è un fatto che poteva e doveva essere evitato, purtroppo non è stato evitato, ma stiamo, attenzione, non stiamo parlando di una strage, stiamo parlando di un episodio che è solo ed esclusivamente, a parte la pacchianità della manifestazione, un episodio, una manifestazione dell'esistenza di un fenomeno, ma non il fenomeno stesso. Un'ultima cosa, me lo chiede un ascoltatore via SMS, sulle sue vacanze in Transilvania, non è un luogo, diciamo, tra i più gettonati, come mai ha scelto, se ce lo può dire, quel luogo per le sue vacanze? Volevo fare il cacciatore di vampiri invece che il cacciatore di mafiosi. È più facile trovare e cacciare qualche vampiro. Ho girato tutta l'Europa, mi mancava quello, insomma, semplicemente. Ah, era l'ultimo paese che voleva visitare. Allora, e poi volevo, devo dire la verità, volevo ritornare nell'ex Jugoslavia, dove ero stato quando avevo 10 anni e non avevo più un ricordo ben preciso, quindi ho voluto vedere com'era la Serbia, dopo essere stato in Kosovo, tra l'altro, durante il periodo del conflitto, sì, e aver lavorato anche lì in situazioni abbastanza pericolose. Volevo tornare su quei luoghi in condizioni di pace, semplicemente quella è la mia scelta. Va bene, grazie, buona serata. Prego. Assessore Sabella. Arrivederci. 800 24 00 24. Avete sentito, cari ascoltatori, vi ha convinto, non è tornato dalle vacanze perché, per non dare soddisfazione a casa Monica, un fatto grave il funerale, ma non certo gravissimo, non una strage, e non bisogna attribuire responsabilità al carabiniere che era di turno, eccetera eccetera. Sul commissariamento, mezzo commissariamento o mancato commissariamento di Roma, avete pure sentito quello che ha detto. Andiamo allora con i vostri interventi. Claudio da Roma, buonasera. Pronto? Prego. A sentire Sabella, che è stato in Kosovo a fare in Croazia, combatte con gli inciuci romani, è drammatico. Cioè, e cercare in tutte le maniere di coprire. Cioè, il carabiniere, io non capisco, dice non dobbiamo mettere, dare responsabilità al carabiniere. Io non le do al carabiniere, io le do ai superiori che all'ultimo momento non hanno ricevuto la comunicazione, il carabiniere che aveva dato disposizioni a chi di dove, dice giudice, lei ha dato la possibilità al figlio del morto di andare al funerale, io ho già comunicato a chi di dovere, quindi non è da prendersela col carabiniere. Il carabiniere avrà un dirigente, no? Il carabiniere avrà un dirigente dell'ufficio che avrà un ruolo di responsabilità, e quello forse che è il primo, diciamo, che può essere preso di mira, stando a quello che dice il prefetto, che dice l'assessore, che il problema era a quel livello lì, no? A livello del singolo carabiniere. Comunque, grazie Claudio, buona serata. Beniamino da Taranto, prego. Ciao, buonasera, buonasera. Niente, io pensavo una cosa, che sì, una figura pubblica istituzionale deve servire, deve essere al servizio della collettività. Se c'è un problema in una casa, in un'azienda, il titolare, il papà torna a casa. Marino dimostra ancora una volta di essere una persona irresponsabile, che hai scelto di fare questo servizio, non lo fai per il prestigio, lo fai per servire una città che si sta rivelando in ginocchio. Chiunque si sarebbe dimesso, non solo per stare attaccato alla poltrona, ma per dignità personale, ma stiamo scherzando? Lasci le ferie, lasci il materassino, lasci il sole e vieni a lavorare, perché vieni ben pagato e la tua non è una carica, non fai impiegato delle poste o cavoli, porca miseria, è un chirurgo, quando c'è bisogno in sala operatoria rimane in sala operatoria. Cioè, non so se mi ho sì, sì, sì. No, io a me sembra attenzione, una cosa normale, sì, normale, sì. Questa, il minimo che potesse fare è rientrare dalle ferie, anticipare il rientro almeno per la giornata di oggi. Mettiamo che Alfano avesse, probabilmente lui aveva delle informazioni che Alfano non avrebbe annunciato il commissariamento, però io l'ho chiamato mezzo commissariamento, ma di fatto il prefetto Gabrielli avrà ruoli su una serie di capitoli che riguardano Roma. Tutto questo annunciato dal ministro, col prefetto, e manca il sindaco, e insomma è una mancanza che salta agli occhi. Grazie Beniamino. Andiamo con Maria, che chiama dalla provincia di Milano. Buonasera. Sì, buonasera. Io insomma intervengo in coda alla trasmissione di ieri sera, sì, sull'argomento di comunione e liberazione, però vorrei aggiungere una cosa su Marino. Io credo che quando uno sceglie e viene eletto sindaco di Roma, per tutto il mandato non deve andare ai Caraibi, dove è un luogo dove non può tornare in qualsiasi momento. Il nostro bel paese, continuiamo a dirlo, è un bel paese, non andate all'estero, stiamo nel nostro bel paese, ecco, che vada a Fresene, così per ogni intervento urgente può tornare immediatamente a Roma. Dai Caraibi penso che sia un po' impossibile trovare un aereo. Questo un non aereo è sbagliato, non è del tutto sbagliato, è quello che dice. Può sembrare populismo, no? Non vada in vacanza ai Caraibi, però è sensato. Di Milano, il sindaco di Roma, durante il suo mandato, è sempre reperibile. Lui è un medico, quindi la reperibilità la conosce molto bene. Quindi vada, non so, ce ne sono tanti, dispiace, bellissimi in Italia, che si raggiungono da Roma in un paio d'ore, e per ogni emergenza sarebbe stato di ritorno. Questo è un suggerimento che do non solamente a Marino, ma anche a tutti i politici che sono in carica durante il loro mandato. Grazie, allora, Maria. Tornando sì, al discorso di comunione e liberazione, io vorrei aggiungere e confermare quanto ha detto l'esponente del Movimento 5 Stelle sulle lobby di questa comunione e liberazione rispetto ai poteri economici. Non dimentichiamoci che una costola di comunione e liberazione è la Compagnia delle Opere. Quindi? La Compagnia delle Opere sono tutti associati delle grandi industrie, piccole, medie e grandi industrie. da dove vengono i finanziamenti e dove ci sono interscambi di affari. La Compagnia delle Opere è una costola della Comunione di Liberazione. Questa è a supporto di quello che diceva l'onorevole 5 Stelle. Che non mi va bene, mi devo fermare per il traffico. Ci risentiamo tra un attimo. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta. Si può fare. L'attualità, anche d'estate. Ma è un popolamento. Intanto vi annuncio che ci sono stati sorteggi per la Champions League di calcio, notizia che tira sempre moltissimo. Sappiate, tifosi della Juventus, gruppo D con Manchester City, Siviglia, Borussia. Borussia però è un'altra squadra che non conosco. Il gruppo B invece riguarda la Roma, Barcellona, Bayer Leverkusen e Bate Borisov. Barcellona, la Roma è andata male, Bayer Leverkusen è andata abbastanza male. Poi mi spiegate cos'è quell'altro Borussia, va bene. Allora, adesso state ascoltando i Prodigi, perché che hanno suonato alla festa del PD di Reggio Emilia, perché vi raccontiamo la prosecuzione della notizia di ieri, la saga dei profughi volontari alla festa dell'Unità di Reggio Emilia. Ieri vi abbiamo raccontato perché dopo un intervento della Lega Nord questi profughi non hanno potuto fare i volontari, servire, cucina, eccetera eccetera, alla festa del PD di Reggio Emilia. Oggi invece marcia indietro, i profughi arrivano, ne parliamo con Andrea Costa, che è segretario del PD di Reggio Emilia. Buonasera. Buonasera a voi e tutti i vostri radioascoltatori. Allora, premesso che ieri abbiamo sentito il consigliere regionale della Lega Del Monte, che ci ha spiegato, fra l'altro glielo facciamo anche sentire tra poco, come e perché avevano fatto questo esposto e avevano sollevato queste critiche. Se vuole però prima le chiedo come mai questo cambiamento, questa marcia indietro. Allora, ieri avete sentito la Lega, adesso potrete finalmente sentire come sono andate realmente le cose e come sono le cose. Questi ragazzi potevano fare volontariato e il Partito Democratico è sempre stato nel giusto quando li ha accolti al campo volo a fare i camerieri. Sì. Quando c'è stata questa tritacarne mediatico, su consiglio della cooperativa che ha in gestione la loro presenza sul territorio reggiano, i ragazzi hanno fatto un passo indietro. Si sono tirati indietro. Il PD non li ha mai allontanati dalla festa. Anzi, proprio io ieri ho portato loro le oltre 500 firme raccolte nelle cucine dai nostri volontari con un appello: amici, tornate a festa. Sì, questo l'avevamo detto, aveva chiamato anche un volontario della festa, esatto. Che aveva detto proprio questo. Senta, le faccio sentire sì, un prego. Attimo, così può replicare una delle critiche che il consigliere della Lega Nord faceva, ed è stato forse uno dei motivi che poi vi ha indotto a cambiare strada, salvo poi appunto ricambiarla di nuovo. Sentiamo Del Monte. La cooperativa è quella che gestisce per conto della prefettura, per conto dello Stato, la gestione dei richiedenti asilo e dei profughi, sì. E non è la stessa che organizza la festa dell'Unità. E quindi in realtà dalle dichiarazioni del segretario del PD pareva che ci fosse un accordo tra la cooperativa, la prefettura e il PD per un, passatemi il brutto termine, un prestito di questa forza lavoro per poter lavorare come volontari, per un utilizzo improprio dei richiedenti asilo per forme privatistiche. Le allargo un po' la critica, era questa: va bene i lavori socialmente utili per i profughi nei comuni o laddove ci sono degli enti pubblici, non per cose private, eventi privati, come potrebbe essere il caso della festa del PD. Pronto? Sì, ma infatti siamo in una fattispecie completamente diversa. La Lega Nord non ha capito. La prefettura ha agito correttamente, i protocolli tra la cooperativa di Mola Abramo, la prefettura e gli enti pubblici che possono richiedere i ragazzi per fare sì. Lavori di pubblica utilità vanno sottoscritti. Qui siamo in un'altra fattispecie: i ragazzi nella loro quotidianità, se non sono coinvolti in un progetto strutturato che dice che dalle alle quel numero di ragazzi deve svolgere quel tipo di attività per conto del tal comune nella tal zona, quindi se non siamo in quell'ambito lì, nell'ambito della loro quotidianità, cioè quando possono andare al cinema, salire su un treno, andare in bicicletta, stare ai giardinetti pubblici, possono anche fare attività spontanea, che è esattamente quella che facevano a Festareggio, indi per cui non era necessaria la sottoscrizione di alcun tipo di accordo tra il mio partito, tra la cooperativa di Abramo e men che meno con cioè la prefettura. I lavori socialmente utili e il volontariato sono due cose completamente diverse, dice lei. Assolutamente, e quindi loro così. Sì. Quindi loro erano tant'è che non sono venuti alla festa e non è successo niente. Ma se invece loro dovessero essere dentro un progetto che riguarda un comune, il comune di Reggio Emilia, e non si presentano a fare l'attività per la quale è stato istituito il progetto, ci sono delle conseguenze. Ieri non sono venuti perché semplicemente possono venire o non venire e non è successo niente. Ma la cosa bella, al netto di tutti questi formalismi che fanno sfuggire alla Lega Nord troppo spesso, che stiamo parlando poi di persone, abbiamo costruito un caso attorno a 30 poveri ragazzi. Sono una trentina. Di che nazionalità sono? Sono africani, arrivano dalla Costa d'Avorio, arrivano dal Senegal. Il consigliere, ecco, esatto, diceva sono senegalesi, quindi non sono, diciamo, profughi, sono aspiranti profughi. Assolutamente sì, sono tutti in attesa, sono tutti richiedenti asilo politico, la loro pratica è istruita e sono in attesa di sapere quale sarà l'esito finale. Ma stiamo parlando di una trentina di ragazzi su oltre 2000 volontari che allestiscono e gestiscono Festareggio, quindi intanto noi non abbiamo bisogno di quei ragazzi lì per far andare avanti la festa, ne abbiamo bisogno per dare un messaggio politico. Noi siamo un'Italia diversa da quella della Lega Nord e di Salvini, noi siamo un'Italia che accoglie, e questi ragazzi lo hanno capito molto meglio dei leghisti, perché ieri sera, dopo una settimana di massacro mediatico, dopo aver acquisito piena consapevolezza che erano all'interno di una festa di partito, hanno preso la bicicletta, sono venuti qui, dopo che io gli ho letto l'appello dei nostri volontari, e ci hanno detto: noi vogliamo stare qui, scegliamo voi, scegliamo questo pezzo d'Italia che rappresenta una comunità che accoglie, che ci ha dato l'opportunità di istituire un po' di relazioni sociali, di scambiare quattro chiacchiere, e rinneghiamo l'Italia che invece ci vorrebbe chiusi in una stanza, perché se noi stiamo chiusi in una stanza allora si può fare speculazione politica e dire che costiamo ai cittadini italiani. Questi ragazzi, ed è curioso che lo abbiano fatto proprio loro, che scappano da paesi in cui la libertà è un concetto ancora da conseguire, ci hanno invece ricordato con il loro gesto che l'Italia è un paese libero, fortunatamente, perché ci siamo noi a governarlo e non la Lega Nord di Matteo Salvini. Senta, però ora un conto è il progetto di integrazione che riguarda i profughi, il loro tempo libero, il volontariato che svolgeranno alla Festa dell'Unità, sulla quale credo anch'io che non ci sia molto da dire, chiarito il fatto che non c'era bisogno di fare un protocollo perché non trattavasi di lavori socialmente utili. Ma più, tornando più in generale, perché lei fa parte di un partito e chiaramente le Feste dell'Unità sono, diciamo, il marchio del Partito Democratico, che sta gestendo dal governo questa ondata di sbarchi e di arrivi di immigrati in un modo che suscita le critiche dell'opposizione, non solo della Lega ma anche del Movimento 5 Stelle, di Forza Italia, delle difficoltà. Ne abbiamo parlato l'altra sera con un sindaco del suo partito, Vecchiarelli, da Bresso. Ci sono in tutta Italia, abbiamo visto torpedoni andare e venire, la difficoltà di gestire questi immigrati, questi richiedenti asilo. È assolutamente concreta e reale. Io tra l'altro faccio il sindaco oltre che il segretario, e quindi conosco perfettamente la fatica quotidiana insieme ai miei colleghi nel gestire queste situazioni. Siamo di fronte a un flusso straordinario di immigrazione, straordinario legato anche alla finestra temporale in cui questo avviene, no? Non lo può fare da sola l'Italia la gestione di questi profughi, di questi richiedenti asilo che arrivano. Attenzione però, lo stiamo facendo, e buona parte delle difficoltà deriva da questo, dentro una cornice di norme che il buon centrodestra e segnatamente la Lega Nord hanno costruito. Il governatore della Lombardia Roberto Maroni, che oggi dice guai a quei comuni che ospiteranno i profughi perché gli toglierò i contributi regionali, è lo stesso Roberto Maroni, perché io ero già sindaco, che nel 2011 ha istituito la forma di gestione che prevedeva la distribuzione per quote di popolazione dei profughi su tutti i comuni d'Italia, che ha istituito il rimborso attraverso le prefetture di 33 euro e rotti per ogni profugo per ogni giorno in cui venivano ospitati. Sì. È lo stesso Roberto Maroni. Io capisco tutto, Costa, però non vuole applicare le regole che ha costruito. Sì, però, e questi ragazzi stanno qui perché che sono... le difficoltà che ci siano oggi siano colpa solo dell'Europa della Lega, no, però no, mi viene difficile crederlo. Ma siamo dentro un contesto di norme, perché io studio e le norme bisogna conoscerle, che rendono complicata la gestione. Dopodiché bisogna fare meglio, assolutamente sì. Cosa potrebbe fare di diverso Alfano rispetto a quello che ha fatto fino ad ora? Io non ho l'autorevolezza per dire al ministro Alfano che cosa dovrebbe fare. Di certo andrebbe cambiata una legge che si chiama Bossi-Fini, che è uno dei problemi italiani, ed è un problema specificatamente italiano. E la Germania è avanti anni luce da noi. La Lega Nord continua a fare, e il centrodestra, una polemica spicciola, mentre gli altri paesi alzano lo sguardo e capiscono che siamo di fronte a una dinamica intanto che non si può fermare, perché se i cinesi sono 1,5 miliardi di persone, ma noi questo siamo non è la dinamica milioni, sulla dinamica da fermare ognuno ha le sue idee, diciamo, di geopolitica o di questioni che riguardano appunto le grandi ondate di immigrazione. La questione molto concreta è come fare a gestire in Italia questo fenomeno, visto che il suo partito, perché sa, il sospetto del consigliere della Lega, che ieri lo ha detto più o meno chiaramente, li fanno entrare, poi li arruolano nelle feste dell'unità, diventano futuri elettori, eccetera eccetera. Sì, è un teorema abbastanza complicato, intanto perché i ragazzi, ad esempio, che sono qui vivono in Italia da circa un anno e non hanno certamente potuto votare per le amministrazioni reggiane, e credo neanche che vogliano stare poi più di tanto qui, qualora potessero avere opportunità migliori che gli offre qualche altro paese. Ma non è che li facciamo entrare, torno a dire, queste persone si muovono perché i fenomeni purtroppo non li possiamo arrestare, forse non è neanche giusto arrestarli, ma sono imbrigliati qui, sono imprigionati qui da un contesto di norme che ha costruito l'Italia e che non ha costruito il mio partito, lo ha costruito in particolare il centrodestra e ancora più in particolare la Lega Nord. Questi ragazzi, ad esempio, che sono qui una trentina, torno a dire, su oltre 2000 volontari, tant'è che abbiamo ospitato il concerto dei Prodigi, richiamavate voi le loro note pochi minuti fa e la festa è andata avanti pur senza quei ragazzi, dire che ne abbiamo bisogno è abbastanza sciocco, significa non aver mai messo piede dentro Festa Reggio, che pure coinvolge 300.000 persone su circa 500.000 di abitanti a Reggio Emilia, basterebbe venire un momento per capire che cosa riusciamo a fare. Ha però un grande sapore politico averli quei 30 ragazzi lì. Va bene, devo chiudere. Grazie Costa, bene, segretario del PD di Reggio Emilia. Abbiamo chiarito la vicenda dei profughi volontari alla Festa dell'Unità. Ci risentiamo dopo il GR. A più tardi. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Marino che sta ai Caraibi, guardate, non ne parliamo proprio, che neanche torna, turista per caso, lasciamolo lì, no, dico lasciamolo lì, non lo facciamo più tornare. Sì, ma le mitragliere. Fategli una telefonata, fategli prendere un aereo, fatelo tornare subito in questa città. Eccoci qua, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare dalle 18 sino alle 20:30 insieme ai vostri interventi all'800 24 00 24. Vi ricordo anche la pagina Facebook Si può fare trattino radio 24 o il nostro account di Twitter @sipoffare24, il mio @alemaurizi. Avete sentito, insomma, la polemica sull'assenza del sindaco di Roma Marino, mentre si decide sul commissariamento che non ci sarà di Roma per la questione della mafia, mentre ci infuriano le polemiche sui funerali di Casa Monica, Roma Marino resta in vacanza e non torna. Tornerà domenica, forse lunedì o forse ancora più tardi, ha detto ai nostri microfoni chiusù in apertura di programma questa sera l'assessore alla legalità Alfonso Sabella. A proposito di ritorni, sentiamo Salvini su Balotelli e la Santanchè su Alfano. giornata delicata perché c'è Mario Balotelli che sta facendo le visite mediche, quindi sono immagini. Come la vedi questo ritorno? ma per piacere. Ritengo che per Alfano, e mi auguro che il posto per lui non ci sia mai, non perché vuole se trovare. C'è il posto per lui vuol dire che non è più il mio partito e non potrei certamente stare in un movimento dove si riprende Alfano non solo come traditore, ma per la sua inefficacia. Ma se torna Alfano lei se ne va? Perché se torna Alfano lei se ne va? Questo è certo. Lunga intervista in apertura di programma questa sera con l'assessore alla legalità e alla trasparenza Sabella di Roma, di ritorno alle sue vacanze in Transilvania. A proposito della notizia di oggi, più poteri al prefetto Gabrielli, lo ha detto il ministro dell'interno Alfano. Il prefetto affiancherà il sindaco assente per il risanamento e su una serie di capitoli. Mezzo commissariamento? No, Sabella non era assolutamente d'accordo, si tratta solo di piccole quisquiglie. Il comune resta libero di operare tranquillamente anche sul giubileo, modello Expo per il giubileo, secondo Sabella. Sentiamo invece a proposito dell'assenza di Marino, sempre l'assessore, e poi sulle sue ferie. Quando torna Marino? Ce lo dice, ci dà una notizia. Quando che arriva a Roma? Credo che dovrebbe arrivare in fine mese o primissimi di settembre. Attenzione, anche i politici hanno una famiglia, anche i politici hanno delle loro esigenze, anche i politici hanno anche qualche problema. Per esempio, a me le ferie me l'ha prescritte il medico, tra parentesi. Io sono scappato all'ospedale e avevo 10 giorni in cui dovevo restare, avevo subito un mese fa un'operazione al cuore, dovevo rientrare, un quarto d'ora dopo ero di nuovo in Campidoglio, nonostante il parere dei medici. Prendiamoci qualche minuto per rilassarci un po', cari ascoltatori dell'800 24 00 24, e chiacchierare con un grande personaggio. È uno scrittore, è un poeta, ma è anche uno scalatore, un uomo di montagna, della montagna, di cui conosce tutti i segreti. È con noi Mauro Corona. Buonasera a voi. Allora, dove si trova? In montagna? Dalle sue parti? No, sono tornato a casa anche stavolta, ho fatto un'arrampicata da stamattina, sono rientrato un'ora fa. Ha trovato molti turisti? Perché no, dove vado io no. No. Perché sono scalate difficili. Non difficile, è una zona dove non nevica firmato, la gente non ci va. Dove non? Dove la neve non cade firmata, tipo Cortina, Courmayeur, Corvara, Davos. E come cade lì? Cade la neve bianca ancora, senza le firme dei grandi autori o dei grandi creatori di moda. Io le volevo chiedere se, siccome si è detto, insomma, quest'estate, vabbè, spiagge piene, gli italiani tornano in vacanza, ma tornano anche in montagna, cioè tornano sempre di più, c'è questo turismo in montagna. Io le volevo chiedere come li vede questi turisti, se è una moda o se cresce anche l'amore per le montagne, che meritano grande rispetto, naturalmente. No, è bello che la gente frequenti la montagna, diciamo che è anche più, è meno cara, meno è più accessibile a livello anche di portafoglio, quindi c'è questa massa che va in montagna. Il problema è che vanno, a differenza del mare, che uno non piglia una barca a vela e si butta per mare, sì. In montagna invece c'è una grande, molta improvvisazione con delle conseguenze anche piuttosto gravi, anche di morte. Cioè bisognerebbe, visto che, ma lo predico da 20 anni, sì. Che nelle scuole si mandino le guide alpine, i contadini, gli artigiani, i boscaioli, udite i cacciatori. Adesso sarò bombardato da mail, i cacciatori non per insegnare a uccidere animali, ma nessuno più del cacciatore sa muoversi sulla montagna, nel bosco. E quindi educare, addestrare, invece c'è un fai da te impressionante. Poi cioè conoscere, sapere, conoscere prima di andare. Conoscere, quelli che conoscono passano e regalano questo insegnamento nelle scuole ai bambini, e che crescendo sì, fino alle terze medie, fino anche quando sono giovanotti, che si addentrano, vanno alla montagna, hanno una preparazione abbastanza forte per schivare pericoli. Io ho visto delle scene allucinanti non più di 20 giorni fa, in un sentiero che ci vogliono da un rifugio all'altro almeno 4 ore, sentiero, non voglio far pubblicità, ma insomma dalle parti di Misurina, papà col bambino di 8-10 mesi, un anno, nello zainetto, che se viene un temporale sono fritti tutti e due, senza un ombrello, senza un telo, senza... Questa è la non conoscenza. E lì, se viene un temporale, e bisogna pensare che ogni pomeriggio, luglio-agosto, quasi ogni pomeriggio c'è un temporale. Senta, tra l'altro questa, ha citato anche i cacciatori, è stata l'estate in cui si è parlato molto a proposito di boschi, di montagna, del cosiddetto ripopolamento dei cinghiali, ci sono state anche delle vittime, perché insomma evidentemente forse ha piovuto poco e questi animali sono andati a mangiare ai bordi dei boschi e ci sono stati incontri non desiderati. Cosa ne pensa di questo cosiddetto ripopolamento per tornare a un'epoca in cui c'erano gli animali selvatici nei boschi, poi però succedono queste cose? Succedono sempre quando l'animale è ai piccoli. È stato aggredito anche una persona nel Trentino, perché ecco che torna l'insegnamento: bisogna stare attenti a muoverci nel bosco quando le femmine hanno i piccoli e di cinghiale. Ma e come di orso. Si fa però a saperlo? Lo si impara a scuola mandando chi lo sa. Come si fa a imparare a guidare l'automobile? E c'è un fai da te impressionante. Ha diritto il cinghiale di stare nel suo habitat, come ha diritto l'uomo, solo che l'uomo è maldestro, non è addestrato, non è insegnato e si butta lì. C'è anche da dire che c'è una proliferazione enorme di animali, e quindi non si possono toccare, non si possono abbattere, perché c'è un piano, non si può più fare niente. I cinghiali sono tanti, i cervi hanno devastato tutto, e se guai se si abbatte qualcosa, perché ci sono i protezionisti, questi verdi a stomaco pieno, questi... Allora bisognerebbe che sia educata alla selezione, alle cose. Uno può anche obiettare, ma si selezionano da soli. Sì, però fanno, qui per esempio gli stambecchi, sì, hanno buttato giù il camoscio a quote più basse, il quale ha respinto più basso il capriolo. Perché c'è lo stambecco? Perché l'hanno introdotto. C'è questo uomo che si arroga il diritto di sapere se li va introdotto il camoscio, se li va introdotto il... Si introducono da solo gli animali, arrivano da soli. Ecco, ma io le voglio citare tre categorie di uomini che fanno cose diverse relativamente agli animali, no? O alla natura: i cacciatori, gli agricoltori e gli animalisti. Chi è più amico della natura, secondo lei, tra queste categorie che hanno discusso molto sulla questione, per esempio, dei cinghiali, no? Non certo gli animalisti, che sono radicali, non si può più toccare. Io penso che la natura sia fatta per l'uomo. Chi crede in Dio, crede l'abbia fatta Dio, chi è laico, che l'abbia fatta l'uomo, a servizio dell'uomo. L'uomo prende dalla natura le cose che gli servono a sopravvivere, non a sparare agli elefanti come faceva il vecchio Hemingway, che è come sparare a un palazzo, ma a cogliere dalla natura come andare a fragole. E quindi ha ragione, diciamo, l'agricoltore quando un lupo, un orso gli sbrana le pecore. Perché ha ragione? Perché per avere il risarcimento di quella pecora, di quel vitella, di quella vitella, ci vanno via 10 anni, ma se l'indomani viene risarcito non si lamenta più. E così vive l'orso e vive l'agricoltore. L'animalista è un po' troppo esagerato, troppo radicale, perché ormai è necessario che venga protetto l'uomo dai protettori di natura. Non si può più fare nulla, non si può più fare nulla. C'è, i boschi invadono le case, invadono i cortili, gli animali proliferano perché non c'è una selezione, e sono consanguinei, diventano più deboli. Qui sono morti 3.400 camosci, e non si può più toccare. A proposito di questa situazione difficile, no? E anche del bisogno di conoscere, quest'estate il Corpo Forestale ha subito un accorpamento per via di una legge del governo Renzi che potrebbe essere accorpato, non so bene se coi carabinieri o con un'altra forza armata. Frequentando la montagna, il Corpo Forestale è una cosa preziosa? Assolutamente sì. Io non lo so cosa fa Renzi, vedo che vive di fucilate e salve, però eliminare o incorporare in altri corpi i forestali è una cosa veramente... Cioè c'è un patrimonio di conoscenze che... Ma forestale è tutto. Io ne parlo nonostante sia stato rincorso parecchio dai forestali quando facevo il bracconiere, ma si andava per mangiare, tra parentesi. Ma la forestale è tutto, ti dà consigli, sa del bosco, sa dei tagli, sa istruisce anche i bambini, li manderei anche i forestali nelle scuole. Guai a eliminare il Corpo Forestale, io non so cosa gli passa per la testa di Renzi, venga qui a vivere un pochino, a vedere quanto sono necessari i forestali. Quindi speriamo che questo accorpamento non sia, come dire, letale, no, speriamo, per i forestali. Ma sì, che tolga altre categorie, che tolga ma noi forestali, soprattutto qui da noi, sono un appiglio, si va da loro a chiedere, insomma è necessario il forestale, non vedo perché scagliarsi su di lui. Senta, un'altra cosa di cui lei è esperto in qualche modo, avendo scritto anche un libro, Guida poco che devi bere, facendo anche dei tour nelle scuole italiane per parlare con i ragazzi del tema dell'alcol, dell'abuso, di come controllare il consumo dell'alcol, questa è stata un'estate nel quale il binomio giovani droga è tornato molto d'attualità. Come li vede questi ragazzi? Sono consapevoli dei rischi, per esempio delle pasticche di estasi che sono queste sconosciute? Guardi, io ho fatto questo tentativo per insegnare ai giovani a bere, però ho scoperto con un paio d'anni che è un tentativo patetico, perché il mio librino voleva insegnare loro a bere con moderazione, a bere bene, sì. E invece loro non gliene frega niente di bere bene, li frega sballare, essere e non annullarsi, non esistere più, ma comunque e qui addirittura a andare nel coma etilico. Quindi il mio libro, cioè, non... c'è un bisogno di esagerazione, sì, che c'è questa sfida, questa esagerazione folle, perché c'è chi paga e muore anche, c'è questa bravata che è classica dei 16-17 anni, anche dai 14, ma è come tirarsi con la roulette russa in testa, e se va bene, ma difficilmente va bene. Quindi io a malincuore devo dire che il mio progetto del librino è fallito. Aia, questo ci dispiace. Sì, no, è fallito perché io ho parlato con i ragazzi, ma a me non me ne frega niente, mi dicono, del tuo libro. Io voglio sballare, voglio non esserci. Addirittura li ho visti in una città del Veneto attraversare la strada piena di traffico per sfidare chi veniva investito. Questa è follia. Non hanno più un progetto per il loro futuro, i giovani. E forse la colpa un po' anche noi, che abbiamo occupato tutte le posizioni. Tra i giovani e quelli di una certa età c'è una valance che li separa. E loro dicono, ma se questo è il mio futuro, lo butto via così. Resti un attimo con noi ancora, se ha ancora qualche minuto da dedicarci, perché dobbiamo dare la linea alle informazioni sulle borse e poi torniamo ancora qualche minuto con Mauro Corona tra poco. Si può fare l'attualità anche d'estate. Listen baby, ain't no mountain high, ain't no valley low. Ain't no river wide enough, baby. Ain't no mountain high. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buonasera, ben ritrovati. Alessio Maurizio, 800 24 00 24. Tra poco riprendiamo a sentire anche i vostri interventi in compagnia adesso di Mauro Corona. L'ho interrotta, forse voleva concludere il discorso, o posso fare un'altra domanda? Perché io ho una curiosità, dal suo punto di vista, di una persona che sta in montagna, frequenta luoghi impervi, molto solitario, che effetto fa invece questo fenomeno dell'immigrazione, delle ondate migratorie, di questo accalcarsi, ammassarsi di persone in cerca di un futuro, di qualche cosa, e delle difficoltà? Che è un fenomeno molto molto sottovalutato e molto preoccupante. Bisogna renderci conto che non è che li si fermi, è una cosa biblica che resterà nella storia. Ci vorranno 20 anni per assestarsi con tanti di quei morti e tante di quelle tragedie. Non è una cosa che si può non si fermano, non vogliono più stare lì, e bisogna accettare e avere ovviamente un programma perché si facciano meno male possibile, ma bisogna accettare questo spargersi di gente nuova che viene da lì e invaderà tutta l'Europa. L'Europa sarà fatta di loro nei prossimi 20 anni. È un fenomeno sottovalutato e molto, molto enorme. Però secondo lei l'Italia, il governo italiano, le istituzioni, le autorità come stanno reagendo a tutto questo? Perché ci provano ma non hanno idee, perché è difficilissimo, è difficile, ci provano ma mettono delle pezze, ognuno dice la sua, ognuno dice la propria idea, ma non c'è verso. Cosa facciamo? Allora, vogliamo che non muoiano? Andiamoli a prendere con le costa crociere, con quelle navi dove vanno le damasse in crociera, andiamoli a prendere, se no, allora li fermiamo lì. In che modo? Bisogna recintare una nazione intera, è come se qui, controlliamo Trieste ma partono da Roma, cioè è pazzesco dire li fermiamo lì, è una cosa immane, impensabile, e pian pianino se ne rendono conto anche i politici è chiaro che ci saranno un sacco di morti perché non ci sono idee, non ci sono soluzioni, c'è poco da fare, questi continueranno ad arrivare e a morire, e fra 20 anni si parlerà di questo fenomeno di morti e di sparpagliamento di genti così. È una cosa molto seria che ancora non ci sono arrivati i nostri comandanti a capire, che è una cosa spaventosa e non frenabile. Però ecco, il dibattito che c'è a livello politico spesso è molto diviso, ideologico, no? Tra chi dice accogliamoli perché non possiamo fare altrimenti e chi invece dice no, fermiamoli, però sembra sempre di essere fermi all'anno zero in questa cosa. Forse in altri paesi sono più pragmatici, cioè la mentalità italiana che ci impedisce. È un po' la mentalità italiana dell'orto privato, di quello soprattutto nel nord, quassù, di chi ci è arrivato, che ha paura del diverso, che gli rubi il lavoro, che gli rubi la casa, che gli rubi i soldi, che gli tenti la moglie, che stupri. Cioè, è questo popolino della mentalità. Ci sono anche casi di stupro ovviamente, ci sono, ma fa parte dell'essere nella storia, dell'essere nel globo, dell'essere planetario. È chiaro che c'è chi furbescamente cavalca questa cosa per ottenere voti, perché non c'è una possibilità più accattivante che inoculare la paura per ottenere poi i voti. I nostri governanti, che se ne dica, vogliono essere al potere, vogliono i voti, e questa politica della paura fa ottenere i consensi, che poco da fare. Però è una roba seria. Una notizia più leggera anche per salutarci, che le voglio chiedere di commentare, è questa. Cioè, lei ha compiuto da poco 65 anni, credo. Sì. Forse ad agosto, qualche giorno fa. Il 9 agosto. È notizia di oggi che c'è appena approvato il divorzio breve, la possibilità di divorziare più velocemente, c'è un boom di divorzi tra gli ultra 65 anni. Come se lo spiega? I 60 sono i nuovi 50? E per questo, cioè, si ricomincia? Sì, ma no, è tutto già visto, e quindi non è il secondo autore o il secondo sposo che si macchia di plagio, io direi di tradimento, bensì il primo, cioè la vita, io qui sarebbe da fare un dibattito serio. Quando sento parlare di tradimento c'è una stanchezza, le cose si logorano. Noi, si ricorda Delitto all'italiana, quando non era condannato l'omicidio per tradimento, sì. Ma che tradimento? Uno vive, può darsi che la falce batti e ribatti, si consuma, non c'è più quell'amore, non c'è più quel fuoco, e quindi bisogna accettare. Invece no, io t'ho sposata, sei mia, o sei tuo, ma tu che? Non esiste il tradimento, uno vive perché la vita si scrive in brutta copia e non abbiamo tempo di correggerla e ricopiarla in bella, diceva Ernesto Sabato. E quindi che tradimento? Uno vive, Io per esempio non ho divorziato perché non ho bisogno di divorziare, gli ho lasciato tutto, soldi, tutto quanto, però faccio la mia vita, se c'è uno scampolo di vita ancora che mi resta, o conoscere un amore, frequentarlo. Però... Quante mogli ha avuto? No, io ce n'ho avuto solo una. Però compagne di vita tante? Ma neanche, avventure, sì, avventure, ma non per fare il mandrillo, perché la vita mi concedeva un'ora buona e l'ho sfruttata, e non esiste il tradimento, esiste vivere. Grazie, buona serata Mauro Corona. Grazie a voi tutti. Ciao. E vabbè, si resterebbe lì così, no? Ad ascoltare anche tutta la sera. 800 24 00 24. Riprendiamo però con gli interventi degli ascoltatori sui temi, insomma, dell'attualità. Luca da Bologna, buonasera. Buonasera. Prego. Dunque, io volevo intervenire sull'assessore che ha intervistato poco fa. Sì. Faccio una premessa, io sono un agente di commercio, quindi una partita IVA, quindi uno di quelli che vengono considerati evasori, soggetti alle studi di settore, cose sì, di questo tipo qua. Quindi sono 4 anni che non faccio ferie perché il mio lavoro è calato incredibilmente, i redditi sono calati, quindi per forza di cose bisogna stringere la cinghia. Mi fa specie sentire di questi personaggi che non possono rientrare dalle ferie, sono i nostri amministratori, e ritengo l'assessore che lei ha intervistato poco fa un campione mondiale di arrampicatura sugli specchi, perché una persona che si è arrampicato sugli specchi per dire che il proprio comune non è stato commissariato, ma dove di fatto c'è il commissario è stato nominato per parecchie competenze. Sì, il prefetto, insomma, non è un vero e proprio commissario, però vabbè, io comunque ho cercato di fargli dire qualcosa di comprensibile, no? Ai romani, no, ma anche agli italiani, perché Roma è la capitale d'Italia. Però assolutamente burocratese questa persona qua, quindi questa è la dimostrazione che queste sono persone che sono al di fuori della realtà comune di tutti quanti i cittadini. E come dicevo con la persona che mi ha preso la telefonata poco fa, questa è la dimostrazione che in Italia il pesce puzza dalla testa, cioè la nostra classe dirigente è veramente indegna, e io ritengo che questo paese non abbia speranza con la classe dirigente di questo paese. Ecco, chiudiamo così con una nota, diciamo, di pessimismo cosmico. Ci manca solo la teoria del complotto e eravamo a posto. Va bene Luca, del resto devo dire che l'intervista all'assessore Sabella, ma non è la prima che ha fatto, che lascia un po', come dire, sconcertati, no? Anche il concetto che lui ha espresso è un fatto gravissimo, quello del funerale di Casa Monica, ma io non torno da Roma per non dargli soddisfazione, è un concetto un po' inafferrabile. Oppure tutta quella sparata che ha fatto sul codice civile, è chiaro che la gente non sa quello di cui stai parlando, quindi perché stai parlando così? Per non farti capire? Questo non è un bel messaggio per uno che è l'assessore, tra l'altro, alla trasparenza. Poi sul fatto del commissariamento che non c'è, può darsi che abbia ragione lui, anzi sicuramente non c'è di fatto neanche un mezzo commissariamento, vogliamo dire così, di Roma, c'è un prefetto, però che ci aiuti a capire, a spiegare, magari sì. Andrea dalla Spezia, buonasera. Buonasera. Prego. Sì, beh, io di nuovo su questa questione così un po' sovra a questo punto della romana, la cosa che mi infastidisce su questa questione è che tutti parlano di una cosa gravissima, anche l'assessore Sabella l'ha definita così, del funerale del vecchio Casa Monica, e invece insomma la cosa grave non è il funerale, che poi insomma, ognuno ha diritto di farlo nei modi e con le modalità e con le musiche che richiede. La cosa grave è che abbiamo scoperto tutti che c'è la mafia a Roma, che prima non lo sapeva nessuno. Quindi l'emergenza non è il funerale, quei petali di fiori, l'elicottero che volava fuori da quelle che erano le norme, eccetera. La cosa grave è che abbiamo capito che ci sono dei mafiosi a Roma e che la mafia a Roma c'è. Cosa vuol dire? Non ho capito. E quindi, insomma, questo è un fatto che avrebbe dovuto essere, noi non lo sapevamo come cittadini, ma a Roma si dovrà sapere, quindi non è un'emergenza per cui uno deve... Per cui ha fatto bene Marino a rimanere in vacanza. Ma secondo me non è quello la ragione per cui va a tornare. Poi, ma scusi, io non capisco, cerco di seguire il suo ragionamento. Dice che i funerali non sono di per sé un fatto grave. È un po' quello che diceva anche Sabella, cioè sono un fatto grave, ma soprattutto, come dire, da adesso non si torna più indietro. Hanno fatto capire a tutti che Roma e tutti i romani non hanno gli anticorpi per la legalità e Roma è una città potenzialmente mafiosa. Questo non è un fatto grave e non implica che un sindaco possa tornare dalle vacanze? Ma direi proprio di no, perché un sindaco queste cose qua deve già sapere, cioè non è che perché fanno un funerale viene fulminato dalla conoscenza del fatto che ci sono i mafiosi. Cioè, io presumo che il sindaco, il prefetto, i questori e il ministro dell'interno sapessero che a Roma c'erano ci sono organizzazioni criminali, forse anche questa di Casa Monica, e si sapeva. Poi il fatto di saperlo però non è servito assolutamente, diciamo, a evitare quella messa in scena, quella paglia accesa. Ma la messa in scena, mi scusi, è del tutto legittima, ma non è il fatto di fare un funerale. No, però scusi Andrea, allora è diverso. Lei pensa che non ci sia niente di strano sui funerali di Casa Monica, ha il diritto di pensarlo, però io, è questo che pensa lei? Ma io penso che i funerali, per quanto brutti, cafoni che possono essere, ognuno se li fa come vuole. Va bene. Il problema però è che se lei pensa questo, lei è coerente, lei è coerente con quello che sta dicendo. Chi non è coerente è chi, come il prefetto Gabrielli o il ministro Alfano o anche l'assessore Sabella, che dicono no, è un fatto grave, molto grave, poi però non c'è nessuno che paga per una responsabilità, il sindaco resta in vacanza, l'assessore resta in vacanza, eccetera eccetera. Questo che non è, questo non è coerente. Sì, perché probabilmente io adesso non è che voglio fare l'esegeta del pensiero di Sabella e di altri, però credo che dire che non è un fatto grave quando tutta la stampa si straccia le vesti che dice un fatto grave forse diventa politicamente difficile da dire. Quello che è un po' infastidisce che, come sempre in Italia, quando c'è saggio che indica la luna tutti guardano il dito, non guardano la luna. C'è, cioè, anche la stampa ha fatto un gran battiaggio sul funerale e basta, invece di magari capire che da questo funerale si comprende che c'è un altro problema. È colpa della stampa, scusi, ma se la stampa non avesse fatto questo, qualcuno ha detto, Gabrielli, il prefetto ha detto, siamo stati tutti manipolati, anche i media, perché in Casa Monica volevano che uscisse così. Io però dico una cosa, dico il contrario, se non fosse uscita sulla stampa questa cosa qua e l'avesse invece rilevata un cronista straniero, non solo si sarebbe detto che Roma potenzialmente è mafiosa, ma si sarebbe detto anche che nessuno se ne accorge e nessuno lo denuncia, ha capito? Ma non mi fraintenda, io non dico questo. Lei, io faccio assolutamente no, ma lei può pensarla come vuole. Ma la stampa ha fatto bene a dire, no, il problema è una questione di modalità, ha fatto bene a dare notizia, per carità. È un po' così conformista la stampa nel concentrarsi sulla gravità del funerale, non sulla gravità del fatto può che darsi, ci sono delle famiglie mafiose. Questo è il punto che questo può darsi. Va bene. Andrebbe maggiormente approfondito. Grazie Andrea, buona serata, grazie. C'è una proposta che fa discutere: vagoni della metropolitana solo per le donne, per le signore, dopo le 10 di sera. È una proposta che arriva dal candidato alla guida del partito laburista inglese Corbyn, Jeremy Corbyn, che insomma, vuole diminuire il numero di violenze, di molestie sessuali sui mezzi pubblici britannici. Ne parliamo con Michela Marzano, buonasera, filosofa e deputata del PD. Buonasera. Allora, questa cosa in realtà, diciamo, rilanciata dal candidato può far specie perché viene da un politico di sinistra, però esiste già in alcuni paesi, Giappone, Brasile, Messico, a quanto ci risulta. Cosa ne pensa? Follia, diciamo, segregazionista per le donne, oppure una preoccupazione, una giusta misura di tutela per le donne? Ma forse né l'uno né l'altro, nel senso che non è né una follia né una misura di giusta tutela. è qualcosa a cui io non solo non avrei pensato, ma a cui io sono contraria, perché non è questo il modo per combattere qualcosa che esiste, qualcosa di preoccupante, perché è vero che le violenze contro le donne ci sono, non diminuiscono e che bisogna fare qualcosa. Veramente non sono d'accordo su qualcosa, perché non è che segregando o separando che poi noi riusciamo veramente a proteggere, nel senso di creare un clima tale che queste violenze non abbiano più luogo. Il punto di partenza è sempre e solo un punto di vista in fondo di educazione, educativo. Noi dobbiamo cercare di creare le condizioni per una migliore convivenza. E non penso che il fatto di segregare, di separare completamente le donne dagli uomini sia un modo non per creare le condizioni della convivenza, ma per rendere ancora più ostili gli uni nei confronti degli altri. Quindi secondo lei avrebbe delle conseguenze negative perché io capisco la critica di chi dice bisogna lavorare sulla prevenzione, sulla cultura, su altre cose. Quello che mi domando è se veramente questo strumento potrebbe far sì che ci sia anche solo una violenza in meno, perché per esempio ora io questi dati li prendo così, diciamo, non alla lettera, però c'è un rapporto del 2008 elaborato a Città del Messico che dice che i casi di molestie sessuali sono passati da 5 a 1 al giorno dopo l'introduzione di questa di vagoni ladies only. Quindi diciamo, chi lo sta sperimentando, diciamo, se sembrerebbe una misura che possa concretamente, non so per quale motivo, forse perché le donne potrebbero andare tutte nello stesso vagone, mettiamola così, no? Uno arriva sul treno la sera, va nel vagone dove sono tutte le signore, si sente più sicura, si sente più rassicurata. Gli effetti negativi, lei l'ha detto, sono questo rischio di che cosa? Ma dunque, intanto ammettiamo pure che funzioni, è comunque una misura tampone, nel senso che se le donne sono tra di loro e quindi non si accede, non c'è la possibilità della presenza maschile, il problema della violenza degli uomini nei confronti delle donne per forza diminuisce. Il problema che però io mi pongo è che non siamo arrivati al XXI secolo per tornare a una situazione della una società quasi arcaica in cui le donne dovevano stare tra di loro e gli uomini tra di loro, perché altrimenti non facciamo altro che tornare indietro. No, certo, non fa piacere a nessuno immaginare una cosa del genere, questo no, questo no, ovviamente no. Però dopo le 10 di sera potrebbe essere una situazione estrema, non normalmente, cioè non di giorno, ecco, non la... No, ho capito che è una posizione estrema, però siccome diciamo che la cosa importante è il lungo termine, e quando dico il lungo termine è riorganizzare proprio la grammatica delle relazioni tra uomo e donna, cioè, secondo me è su questo che si deve lavorare, perché altrimenti vediamo dei risultati apparentemente positivi e si immagina che si debba andare ancora una volta in quella direzione. Il problema è che noi non abbiamo lottato per tanti secoli per tornare di nuovo a trovarci tra donne. Ma perché secondo lei questa, diciamo, questa misura, carrozze sui vagoni, nelle metropolitane per sole donne, questo divisionismo potrebbe addirittura, diciamo, incentivare dei comportamenti ancora peggiori a parte degli uomini malintenzionati? Che incentiverebbe comportamenti peggiori, ma non creerebbe quel rapporto, quella situazione di dialogo, poi si finirebbe con l'andare sempre più lontano. Allora adesso lo si fa alle 10 di sera, poi si comincia durante la giornata, e perché no quando si va in piscina, giorni soltanto per le donne, giorni per gli uomini, che poi sono la proposta, sono proposte che vengono fatte talvolta da alcuni estremisti anche musulmani, che considerano che in piscina devono andare soltanto le donne in determinati giorni, che considerano che una donna non può essere visitata da un ginecologo uomo e così via. Cioè, se noi torniamo indietro invece di andare avanti, in realtà questa è qualcosa che mi disturba. Io poi non voglio, per carità, gettare la pietra, come si suol dire, cioè non voglio accusare di ignoranza o di incapacità di comprensione, però ho dei forti dubbi che sia questa la strada verso la quale, lungo la quale ci si debba incamminare, visto che l'aumentare poi delle violenze o comunque il non diminuire delle violenze è legato spesso a una incapacità di rapportarsi all'altro. Cioè, che cos'è che poi scatena la violenza? È proprio la presenza dell'alterità, un'alterità che viene considerata come straniera, come altro, come debole, e quindi ce la si prende con ciò che è diverso da noi. Se noi segreghiamo e rendiamo l'altro ancora più altro perché lo mettiamo a distanza, noi non arriveremo mai a quella situazione in cui diverse alterità possono arrivare a convivere in maniera pacifica ma... rispettandosi mutualmente. Senta Marzano, lei appunto è, una, è un onorevole anche del Partito Democratico, non la stupisce però che questa proposta venga da un uomo di sinistra come questo Jeremy Corbyn, che è addirittura il candidato forse più di sinistra tra tutti? No, ma è sicuramente un candidato di sinistra che ha delle idee molto precise che io condivido da un punto di vista di politica sociale, da, da un punto di vista di politica economica. Che poi uno abbia delle posizioni che io condivido perché di sinistra, da un punto di vista di politica economica e politica sociale, non vuol dire che io debba condividere qualunque presa di posizione. Ma il fatto di essere di sinistra non implica delle competenze, per esempio dal punto di vista di politiche di genere o di questioni anche intersoggettive nelle relazioni tra gli uomini e le donne. Quindi insomma, proposta bocciata, non la importerebbe in un programma politico? La boccia anche perché quello che mi dispiace un po', perché questo poi è qualcosa che va al di là questo dell'essere diverso di sinistra, è che si immagina che quando si tratta di questioni femminili, di genere, di orientamento sessuale, chiunque possa dire qualunque cosa, mentre in realtà anche su queste questioni forse qualche competenza in più non guasterebbe. Va bene, grazie, buona serata Michela Marzano, grazie per essere stata con noi. Ci fermiamo qua, c'è una piccola pausa, torniamo tra un attimo. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua, cari ascoltatori. Allora, andiamo con i vostri interventi, riprendiamo fino al TG, fino ai titoli della 7, riprendiamo con Alessandro, chiama dalla provincia di Ravenna. Alessandro, buonasera, se ci sente. Eccolo qua, prego. Grazie. No, io volevo dire solo poche cose, pochi. Il fatto di Marino ci comporta nel pieno mondo come ci comportiamo noi tutti gli italiani, quando c'è bisogno di andare a votare per tagliare un riferio, non c'è già cosa deve ritornare a fare. Se può togliere viva voce, scusi Alessandro, perché non la sentiamo. Sì, se riesce a togliere in questi due secondi, bravo, così la sentiamo molto meglio. Prego. Devo ridirlo? Sì. Allora, il fatto di Marino va bene non presentarsi, perché tanto gli italiani quando dovrebbero andare a votare vanno tutti al mare, lui al mare c'è già, cosa deve ritornare a fare? E volevo dire anche un'altra. Sì. Un'altra cosina sul fatto degli immigrati. Sì. Invece di utilizzare delle tendopoli, noi abbiamo le caserme che sono vuote perché il servizio di legno in Italia non si fa più. Quindi le abbiamo loro, se le gestiscono, si fanno da mangiare, si fanno le loro pulizie, se le curano loro. Poi li possiamo anche utilizzare, se hanno della buona volontà, per pulire i nostri fiumi, che tutte le volte che viene un nubifragio alleghiamo tutto quanto, quindi possono fare qualcosa. Guardi, tutte le volte che sento questi ascoltatori che come lei, che fanno queste proposte così semplici, tranquille, lineari, di buon senso, come l'altra sera Beppe da Milano che invitava, no, a dare un profugo per ogni contadino che ne avrebbe bisogno nei campi, in cambio di ospitalità e di accoglienza, sembra talmente giusto che uno dice, ma perché poi non solo non si fa, ma non siamo neanche lontanamente vicini a cose di questo genere. Adesso il tema delle caserme, perché molte non hanno più l'agibilità, allora non si può dare per via della mancanza dell'agibilità. In altri casi sono già state date per altri servizi, per altre cose. In qualche caso sono troppo nel centro delle città, perché ricordiamoci che molte caserme stanno nel centro, non ce li possiamo mettere per questo motivo e per quell'altro. Però resta l'interrogativo suo, posto secondo me in maniera corretta. Se Alfano ci sta ascoltando, sarebbe bello che ci desse una risposta. Alessandro, grazie. Voleva aggiungere qualcosa? No, buona serata. No, volevo dire un'altra cosa. Sì. Io c'ho anche una soluzione per l'evasione. Bravo, vediamo se è buona anche questa. Lei no, così un tanto al gettone. Lei, uno dice ho un problema con, e lei c'ha una soluzione. Paf, evasione, sentiamo. Sì, io c'ho una soluzione. Sì. Io metto un termine, un anno, due anni, tre anni, tutto il tempo che vogliono per mettersi in regola. Alla tal data, chi non si è messo in regola, visto che sono evasori totali che non dichiarano niente, è vero, perché se li scopro io loro non hanno più niente, gli porto via tutto, a loro e ai loro familiari, perché è ora di smetterla che tutti paghino e ci siano ancora soldi in Italia che se ne approfittano. Va bene Alessandro, questa è ancora più difficile dell'altra da realizzare, però magari una di queste sera la richiamiamo per fare così, proposte a gettone, tac, fa una richiesta e Alessandro c'ha la risposta. Luigi da Torino, buonasera. Buonasera, mi sente bene? Sì. Forte e chiaro. Perfetto, no, io volevo parlare di Casa Monica, però insomma mi ha preceduto un ascoltatore che ha detto quello che pensavo io. Sì. Abbiamo perso solo tempo e pagine di giornali, perché onestamente sapere poi, perché uno poi si informa su Twitter, Wikipedia, 50 anni che fanno cosa vogliono a Roma e ci scandalizziamo che poi muore e gli fanno un bel funerale, è normale, credo che sia nella norma. Sì. Poi un'altra cosa importante, Marino è in vacanza. Però scusi, un conto è cercare di contrastare l'attività criminale di Casa Monica con la polizia, l'intelligence, i magistrati, i pedinamenti, eccetera, eccetera. E si sa che il guardia e ladri, no? Questo è sempre successo. Un conto è consentire a qualcuno, in una parvenza di legalità, di fare un funerale con il padrino, i manifesti che hai conquistato Roma, l'elicottero. Coi petali, questo non si può fare semplicemente. Non so quanto, perché a un certo punto nei funerali dei paesini, io abito in provincia di Torino, cioè se c'è un reduce di guerra, se c'è comunque la musica, la banda, si fanno mettere qualsiasi cosa, insomma i funerali sono coloriti in Italia, Napoli, nel napoletano ci sono i funerali che insomma secondo me è molto peggio di quelli dei Casa Monica. Comunque non voglio scusarli con questo, sono delinquenti, fatti loro, insomma, ma non ci interessa a noi, non ci interessa perché lo sappiamo già. Cioè le cose gravi sono ben altre. Per dire un sindaco della capitale. No, guardi, io su quando ben altro non sono molto d'accordo su ben altro, però è legittimo che lei lo pensi, è legittimo. È la visione che ognuno sicuramente, ha della vita. No, ma sicuramente è vero che è più grave le attività criminali che hanno svolto Casa Monica a Roma in questi anni piuttosto che il funerale. È ovvio che è più grave. Però non è che su quelle attività criminali non è stato fatto niente, c'è un contrasto, noi abbiamo avuto telefonate di gente che ha denunciato, che ha fatto delle cose, no? E quindi c'è la guardia e ladri, lotta, a meno che non si creda che c'è un grande complotto per far fare a Casa Monica tutto quello che vogliono da parte di tutti. Non so se è questo il caso. No, vabbè, è andato via l'ascoltatore. Abbiamo i titoli? Sì, la 7, vai. Nuova strage di migranti, stavolta in Austria. Decine di profughi trovati morti soffocati in un tir adibito al trasporto di pollame. Il mezzo era abbandonato vicino al confine con Ungheria e Slovacchia. È la prima tragedia sulla rotta balcanica. La cancelliera Merkel scioccata e Bruxelles ora chiede azioni comuni e solidarietà di tutti i paesi. Il governo mette sotto tutela il comune di Roma, approvato dall'esecutivo il piano Alfano per il dopo mafia capitale sul Giubileo. Al prefetto Gabrielli ampi poteri di coordinamento e pianificazione della spesa. Il prefetto affiancherà il sindaco nel risanamento, dice il ministro. Gabrielli agirà come sala a Milano per l'Expo, dice il sottosegretario De Vincenti, sciolto per mafia il municipio di Ostia. Dagli Stati Uniti, dove ancora in vacanza il sindaco Marino, si dice soddisfatto, smentite le voci di un commissariamento, sarà positiva la collaborazione con il governo, opposizioni tutte all'attacco però, Forza Italia invoca il voto anticipato, stessa posizione di Salvini, comune da sciogliere anche per Fratelli d'Italia, i 5 Stelle parlano di sindaco fantoccio, Renzi sostengono ha paura del voto a Roma. In Italia segni di ripresa sul mercato immobiliare dei prestiti alle imprese. Intanto, dopo tre giorni difficilissimi per l'effetto bolla cinese, torna il sereno sui mercati finanziari. Positive tutte le borse europee, sospinte da un aumento del PIL degli Stati Uniti, superiore alle attese e dal rimbalzo delle borse di Shanghai, della borsa di Shanghai che guadagna il 5%. Stati Uniti sotto shock ancora per i due cronisti uccisi in diretta TV in Virginia. Oggi nuovi episodi di violenza e di follia scuotono l'opinione pubblica. In Louisiana un uomo uccide due donne e si barrica in un negozio dove prende in ostaggio 8 persone. Il presidente Obama rilancia il suo appello al Congresso. Stop alla libera vendita delle armi. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Eccoci qua, Marco da Milano, buonasera, benvenuto, prego. Buonasera, grazie per avermi contattato. Sì. Io volevo parlare con voi per quanto riguarda il si può fare sulla gestione di una fascia di età di ragazzi. Prima avevo sentito Corona che parlava di questi adolescenti, quali sono molto spesso lasciati soli in una società che li tappa completamente, li oscura, li occlude, non gli dà possibilità di crescita di nessun tipo. E allora sento parlare molto di profughi come se fosse la catastrofe dell'Europa. A noi, io chiedo, non ci rendiamo conto che la catastrofe in realtà è di una fascia societaria nostra che non facciamo crescere, alla quale non diamo possibilità di reagire di fronte alla nostra incompetenza anche nella loro gestione. Scusi, non ho capito, chi è responsabile di questa catastrofe secondo lei? La catastrofe è la società, nella società c'è tutto. C'è il dramma dei giovani che non hanno lavoro, che non hanno prospettive, questo? Il dramma dei giovani che non hanno lavoro, che non hanno prospettive, che buttano via la loro vita. Ma chi è? C'è un responsabile di questo dramma? Non sto seguendo il filo del suo ragionamento. Prego, volentieri. Ma il responsabile di questo dramma probabilmente siamo noi stessi, noi che non riusciamo a capire quelle che sono le loro esigenze e far capire loro quelle che sono le esigenze nostre, della nostra società. Io chiedo semplicemente questo. Vorrei sapere, per aiutare i profughi, quante migliaia di persone ci sono? Ma per aiutare i nostri ragazzi, quante persone ci sono? Ma non capisco il paragone, scusi. Aiutare i nostri ragazzi in cosa? A fare cosa? In che modo? A essere partecipi a tutto quello che succede. Allora, chi è di responsabilità? È un servizio pubblico dello Stato italiano? Non è una cosa che riguarda le famiglie, i genitori di ognuno di questi ragazzi che devono occuparsi della loro crescita? All'interno di questa grande crisi morale, sì, Sicuramente ci sono le famiglie, questo in primis, ma le famiglie molto spesso non hanno una forza morale da poter uscire dalle situazioni che si trovano. In questo caso lo Stato italiano non esiste assolutamente, lo Stato italiano o tutti quelli che possono essere le associazioni che possono aiutare questi ragazzi veramente a dare una mano anche a noi in qualità di lavoratori, di genitori, in qualità di persone che vivono quotidianamente le problematiche della nostra società. Noi non riusciamo a farci aiutare, non riusciamo ad aiutarli questi ragazzi qua. Ribadisco il concetto. Io semplicemente volevo dire questo. E allora al signore siciliano che ho sentito ieri che diceva ad ogni agricoltore diamo un profugo. Io dico, ma ad ogni agricoltore diamogli un ragazzo che gli insegni il mestiere. Ma i ragazzi ci vanno poi nei campi a fare il lavoro dei contadini? Allora io chiedo anche questo, sì. Ma noi riusciamo a stimolare i ragazzi al punto? Noi stiamo dicendo questo, un profugo costa 30 euro al giorno, no? 35 euro al giorno. La proposta di Beppe ieri sera era: diamo questi 35 euro a un contadino che ci mantiene vitto e alloggio un profugo facendolo lavorare, il che vorrebbe dire facendo l'equivalente di quello che dice lei. A parte che io sono d'accordo, far lavorare i giovani nell'agricoltura con delle borse, con dei progetti, con la borsa della terra, ne abbiamo parlato mille volte, nel Si può fare, tra l'altro, che riprenderà da settembre, il sabato e la domenica mattina, però parliamo di 30 euro al giorno per un giovane italiano andare a lavorare nei campi. Allora, quanta ricchezza può portare a casa un ragazzo giovane oltre 30 euro al giorno? No, ma si muove per 30 euro al giorno un ragazzo italiano per andare a lavorare? Secondo me no, giustamente anche. Stiamo parlando di una situazione di emergenza, i profughi, e di come metterli a frutto, a farli diventare una risorsa. Non è una prospettiva chiaramente per lo sviluppo del paese o per il futuro questa qua, non è questo, non stiamo parlando di questo, insomma. È un tampone a una situazione, ci stanno i profughi, stanno nelle tende, mettiamoli a fare qualcosa, lavori socialmente utili nei campi, eccetera, eccetera, in cambio di quei 30 euro che gli diamo al giorno. Questa è paragonare questo col problema, diciamo, dello sviluppo dei giovani italiani è un discorso che si può fare, ma secondo me sono due cose totalmente diverse. Sì, allora sono due urgenze diverse, sono due persone diverse. Un profugo deve capire le nostre dinamiche della società, capire esattamente noi cosa cerchiamo da lui. Sì. Il ragazzo giovane non lo si manda lì non per dirgli cosa cerchiamo da lui, ma questo è quello che può imparare, che è una cosa diversa, perché conosce benissimo la nostra società. Quello che voglio dire io, stuzzicando i vostri occhi, volevo stuzzicare semplicemente dicendo che noi parliamo di profughi, ragazzi, ma noi abbiamo delle età Guardi Marco, la sentiamo anche male tra l'altro. Vuole una proposta che va nella direzione dei giovani, non facile, l'ha fatta Salvini. Tornare al servizio civile obbligatorio, un anno di volontariato nel quale i giovani, come lei dice, che sono senza prospettive, abbandonati, senza educazione perché le famiglie non ce la fanno, eccetera, eccetera, eccetera, in cambio di poco però, perché lì lo stipendio sono 5 euro al giorno, 10 euro al giorno, fanno un servizio di volontariato che però è un momento di crescita. Questa secondo me è una proposta che l'ha fatta Salvini, io sono d'accordo e non so se risponde a quello che stava dicendo lei, forse. Assolutamente sì, se viene visto in un progetto molto più ampio, sì? Okay, questo potrebbe essere una leva che serve per arrivare a un progetto più ampio, questo sì. Va bene, grazie, buona serata. Grazie Marco. Grazie a lei, grazie a voi, buonasera. Traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare l'attualità anche d'estate. On the beach, sotto solo la pelle bruci, sotto la luna ancora di più. Quando fuori flexi superman, senza fare love non si può stare. Oh babe. Andiamo sulla spiaggia, ma per cercare lavoro. Tra l'altro, in una giornata nella quale il ministro per il lavoro Poletti ha corretto i dati sui contratti a tempo indeterminato, insomma, manca a farla apposta, era stato detto ci sono 630.585 contratti, invece oggi si è scoperto sono la metà, 327.758 contratti a tempo indeterminato tra stabilizzazioni, quelle famose passate da contratti precari a contratti a tempo indeterminato, e nuove, diciamo, nuovi contratti. Quindi questo è il dato, 300.000, meno di quello che si sperava con il Jobs Act, numeri che non fanno, diciamo, non cambiano di molto la situazione per quanto riguarda la disoccupazione. Siamo in spiaggia per cercare lavoro perché una importante società di intermediazione del lavoro fa proprio questo, colazioni sulla spiaggia per fare colloqui di lavoro in un modo nuovo. Ne parliamo con Marco Pareti, area manager di, lo diciamo subito o lo diciamo dopo per non fare pubblicità? Come preferisce. Diciamolo tra un attimo, così non ci facciamo condizionare dal nome della società a cui lei appartiene. Però poi lo diciamo perché è giusto, perché è un'iniziativa vostra. Di che si tratta? Intanto buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Sostanzialmente l'idea è nata l'anno scorso ed è stata quella di velocizzare in qualche modo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Quindi una cosa a cui ci sono applicati tutti in questi anni con non sempre grandissimi risultati purtroppo. Sì, noi abbiamo ideato, diciamo copiando dallo Speed Date, la possibilità di in poco tempo di dare ad alcuni candidati selezionati e preparati l'opportunità di farsi conoscere in maniera anche un po' diversa dal solito. La colazione o l'aperitivo ne abbiamo organizzati diversi in Italia, una cinquantina tra scorso anno e quest'anno fino a luglio, sono stati fatti in diverse località, diciamo dal nord al sud, dove noi abbiamo le filiali. Sì. L'idea è stata quella di invitare clienti, quindi aziende che potessero avere l'opportunità di scegliere lavoratori qualificati e ovviamente lavoratori stessi. La colazione è molto veloce perché i colloqui sono dai 5 ai 10 minuti e evidentemente non sono veri e propri colloqui, sono un modo per poter presentare se stesso come persona anzitutto, quali sono le proprie motivazioni, sì, successivamente anche il proprio percorso scolastico. Se si riesce a suscitare l'interesse da parte del cliente, si ha luogo ad un ovviamente un secondo incontro di approfondimento. A quel punto diventerà un pranzo proprio. Magari, dalla colazione, il pranzo, poi la cena. poi l'assunzione, insomma, questo è quello che ci auguriamo. Ma intanto diciamo il nome, Randstad, e dove farete il prossimo speed date? Possiamo dirlo a Cesenatico? Allora, abbiamo concluso a Cesena il 17 luglio, adesso sì, ne abbiamo 4 in programmazione che saranno tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, le dovrebbero essere sicuramente a Torino e in altre 3 città italiane. Quindi abbandonate le spiagge però, perché... Non saranno più in spiaggia, abbiamo, diciamo, la spiaggia è diventata famosa perché è stata anche ripresa da diverse sì, testate giornalistiche, ma anche per l'originalità, la particolarità. In realtà l'abbiamo organizzata... In diverse località, sia in alcune filiali nostre, sia in pasticcerie piuttosto che in ristoranti, in località anche balneari in questo caso, è successo a Savona e anche in Sud Italia, a Caserta e così via. L'idea è quella di mettere a proprio agio le persone, sì. Soprattutto il candidato, che di solito per i colloqui ha sempre un momento di super tensione. Nervoso, super teso, uno è preoccupato di tutto, giacca e cravatta, invece via, calzoncini corti in spiaggia. Possono venire fuori anche delle cose magari a livello informale, ma più informazioni forse anche per chi fa queste selezioni, cioè scoprire qualcosa di più anche del candidato, no? Proprio in questa situazione, diciamo, di relax. Diciamo che la punta dell'iceberg è la colazione in sé. La colazione prevede tutto un lavoro precedente che viene fatto proprio perché i clienti incontrano candidati dopo aver espresso quali sono le loro necessità, sì. Per cui non sono colloqui diciamo organizzati in maniera casuale in quella giornata evidentemente, ma sono molto preparati, per cui cerchiamo di far combaciare richiesta e offerta presentando profili di interesse del cliente magari nell'immediato, sì, sì, oppure come è giusto che sia. Senta, in questo momento c'è qualche domanda di rito, ovviamente c'è qualche settore che tira di più, detto che poi uno può andare sul sito, credo vostro, e trovare tutti gli, certo, appuntamenti, gli speed date, e quindi se è interessato a questo genere di colloqui è una strada come un'altra, la può provare. Quali sono invece appunto i settori? C'è qualche cosa che si sta muovendo di più? Allora, noi, devo dire la verità, stiamo registrando una buona risposta da diversi settori. Più che il settore trasversale, credo che oggi sia importante identificare l'azienda che opera magari in un certo settore, perché ci sono molte realtà italiane che sono esempi di successo e anche in un momento come quello appena trascorso di crisi hanno comunque investito e oggi stanno raccogliendo frutti per quanto riguarda la loro attività e conseguentemente si ribaltano anche in assunzioni e in opportunità per nuovi candidati di entrare a far parte dell'azienda. Per cui credo che i settori classici italiani, quindi l'alimentare piuttosto che di produzione di metalmeccanico, ma anche di servizi, sia alle imprese che a privati, in realtà un po' c'è effervescenza, almeno questo noi... C'è movimento, pensando, non in un settore particolare, ma insomma c'è un po', no, di effervescenza, un po' di richieste ci sono. Sì. Quindi, cari ascoltatori, se siete in età di ricerca di lavoro, se avete dei figli che stanno cercando lavoro, sappiate che potete entrare anche attraverso questo canale. Io la ringrazio, Marco Pareti di Randstad, grazie per essere stato con noi. Lei, se mi permette solo una, sì, cosa, proprio per quello che sta dicendo adesso, cioè dell'orientamento, abbiamo un canale su YouTube, un canale Randstad, dove ci sono una serie di video proprio che servono per orientare anche le persone, per avere un primo contatto. Grazie, perfetto, buona serata, arrivederci. Grazie per essere stato con noi. Allora, chiudiamo con un po' di interventi degli ascoltatori che sono in attesa già da un po'. Andiamo con Spartaco che ci chiama da Rimini. Buonasera. Buonasera. Complimenti per la trasmissione, vi ascolto sempre. Grazie. Anche perché faccio un lavoro che sono sempre in viaggio. L'autista? Certo. Di camion? Di camion? Certo. Certo. Cosa trasporti? Di tutto? No, catena del freddo, generi alimentari. La catena del freddo si chiama così? Sì. Tutti surgelati, cose che... No, è il fresco. Prodotti che vanno tutti i giorni nella vostra tavola. Quindi tipo frutta e verdura o pesce? No, carne. Carne, non ci ho azzeccato, vabbè, ecco. Cosa volevi dire, Sparta? Io mi volevo collegare al discorso di quel signore prima, che diceva che come possiamo aiutare i giovani a integrarsi in questi momenti difficili. Sì. Io sono venuto in Italia ormai nel 94, che è un ragazzino. Da dove? Da dove? Dalla splendida città di Durazzo. Albania, perfetto. Ecco. E niente, io sono sbarcato giustamente in Puglia e mi sono adattato a lavorare in campagna, cosa che per me era una cosa... Cioè io sono nato e cresciuto in città, insomma. E mi sono adattato. In epoca io lavoravo per 35.000 lire al giorno. Sì. E mi sono adattato a fare tutto. Io mi domando, i giorni d'oggi, con tutta la situazione che c'è sociale, perché la colpa è sociale, perché ormai vivo anch'io qui da 21 anni, la colpa è sociale, questi ragazzi sono magari propensi a spostarsi, a fare quei lavori che magari, no, gli stranieri oppure gli extracomunitari si spacca la schiena a raccogliere pomodori o tutto quello che si vede in televisione. È una questione, sa, a volte anche è vero, sicuramente c'è questa cosa, ma è una questione anche di prezzi, però, no? Certo, sentivo prima che per 35 euro al giorno si può mantenere un emigrante, no? Sì, un profugo. Ma quella signora poverina che è deceduta, che è andata a lavorare per 27 euro al giorno, che voglio collegarmi anche al discorso del caporalato. Certo. Ecco, il mio caso, io quando già lavoravo in campagna, c'era già il caporalato. Quindi si parla di 20 anni fa e non è mai smesso di continuare questa cosa. Si sveglia purtroppo l'Italia solo quando scappa il morto. Questo è vero. Questa è una cosa che fa molto male alla società, l'educazione dei giovani e tutto il resto. Spartak, hai avuto una famiglia, dei figli nel frattempo? Sì, io mano a mano cioè, ho cresciuto la mia famiglia, ho un bambino di 8 anni. Quindi è presto per preoccuparsi, diciamo, del suo futuro, insomma. Ma io lo vedo grigia già quando sono venuto qua, sì. Insomma, già cominciava, sai, la storia che era scoppiato Mani Pulite e tutto il resto, già andavo in degrado, ma... Però scusami, erano tutti come te gli albanesi che arrivavano in Italia, o c'era anche chi, come da tutte le parti, non aveva voglia di darsi da fare? Allora, c'è un vecchio detto che si dice che non c'è bosco senza cinghiali. Quindi nella mucca. Che poi, visto l'argomento di cui abbiamo parlato in questi giorni, è perfetto, perché abbiamo parlato molto, se ci ascoltate anche di quello, quindi certo, è chiaro, è chiaro. Sì. Quindi insomma. Ci vuole un po' di buon senso, io dico. Bisogna rabboccarsi le maniche. Perché io ho sempre lavorato qui. In 20 anni non ho mai visto giorni bui. Certo c'è la preoccupazione, però se uno ha la volontà. Io anche tutt'oggi faccio 70 km per andare a tornare a casa per andare a lavorare. Quindi bisogna adattarsi, tutto qui. Grazie Spartak. Buona serata, ciao, grazie. Buon viaggio, buon viaggio. Grazie, grazie, grazie. Giulia da Milano, buonasera. Chiudiamo con una donna, va? Con una signora. Sì, io penso che ho sentito tutti e naturalmente ci sono delle persone come il signor Corona che mi sono piaciute. Io volevo chiederle un parere, perché sono vecchia, io ormai sono 84 anni, quindi sono ormai quasi alla fine della vita, anche se vivo benissimo e non mi annoio e mi piace anche stare al mondo. Brava, Ecco, e volevo chiederle, sì. Dico, ma il giubileo è una cosa... Io non so nulla del giubileo, glielo dico, io Giulia mi dispiace, ma sul giubileo non sono molto preparato, perché... No, io guardi, sì. Mi domandavo solamente questo, io non sono religiosa, quasi nemmeno niente. Io, sì. Ecco, non sono religiosa, però a parte che ammiro questo Papa, perché insomma cerca perlomeno di cambiare un po' le cose, ma il fatto è questo, con tutto il bugirio, tutto il casino che c'è a Roma, sì. Che c'è anche in tutta Italia, dico, era proprio necessario fare un giubileo quando sì, io capisco. È una bella, anche è una bella domanda questa, persone. Sì. Giulia, che dire? Ma è un bucamento. Ecco, bravo, esatto, questo è Pietro Lacorte dalla regia, grazie, io devo chiudere in realtà. Quindi questa domanda resta sospesa, la riprendiamo domani, così come ci risentiremo domani dalle 18 alle 20.30 con Si può fare. Un ringraziamento a Cristian Goldoni, Leonardo Siligato, Grazia Gala, Riccardo Poli, Andrea Piana, quanti siamo, Pietro Lacorte in regia. Ci risentiamo domani, ciao a tutti, buona serata da Alessio Maurizi, ciao.